parlo con la zanzara, Radio ciao 24. Belli, Radio DJ. DJ Angelo Roberto Ferrari. Da Fosi, provincia di Cagliari, vicino Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che sì, tra l'altro... Vabbè, dai. Tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, no. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Hey Joe, get up and go, wouldn't like to tell you twice. Hey Mac, get off my back, didn't ask your advice. There's too much heat. Mi piacete perché se cerchi il peggio che c'è in Italia oggi, basta sintonizzarsi su Radio 24. Date veramente spazio a tutti. Cruciani, sei immorale. Stan, we ain't hard to bother you. Siete la spazzatura radiofonica italiana. Siete proprio una cosa abominevole, siete una merda proprio. Oh ragazzi, è meno male che ha avuto un'operazione al cuore, meno male che ha avuto i bypass, quello che gli hanno messo, meno male che doveva rimanere a riposo secondo i medici, caro Parenzo, mentre tu ieri sera eri in onda con in onda, esatto. dall'altra parte il paziente schermo. Sgarbi, il paziente Sgarbi impazzava a Ballarò e insomma era tranquillo, però era rilassato, tranquillo, si è arrabbiato, tranquillo, gli fa male arrabbiarsi. Senti sulle pale oliche un suo cavallo di battaglia storico, devo dire che anche un po' ripetitivo, che ci ha rotto anche un po' i coglioni, pale oliche, lui è contro, mi pare, no? Sì, mi pare di aver capito, no? Che dici? Non lo so. Punto interrogativo, è contro, sì, le palle, che forse è contro, forse, sì, mi pare. Forse. Mi pare. Io devo pagare le pale eoliche che distruggono il Molise, che distruggono quelle che stanno mettendo ad Apecchio e nelle Marche, una per una nel culo te le voglio mettere. Altro vabbè, che pagare gli incentivi a questa gentaglia. Calma Vittorio. Ladri, mafiosi, questo sono. Preduni. Mafiosi. Non Preduni. Pago le tasse ai mafiosi. Abbastanza curioso, noi ogni tanto dobbiamo polemizzare pure con Vittorione, non è che possiamo fare solamente... grande Giannini che dice adesso aspetti, quando Sgarbi dice bisogna mettergli le paleoliche. No, poi tra l'altro adesso aspetti. Dopo l'altro Giannini sembra avere scoperto da poco Sgarbi, come uno che scopre Sgarbi come mostro televisivo solamente adesso. E noi ne sappiamo qualcosa, non è vero? Beh, qualche ricordo. Lontanissimo, qualche ricordo ormai c'è, sì, lontanissimo. Sì. Che poi sembra, è vero, incredibile. Radio Belva sembra passato un secolo. Stasera stasera possiamo dire tutto perché è l'ultima puntata dell'anno. È rimasto nella storia, ma sì, sembra che siano passati 10 anni in realtà. E invece non quanti sono? Due anni! Cioè nulla! Vabbè, ancora Sgarbi ieri sera, dai. È lo spreco, gli stipendi dati a gente inutile, gli stipendi dati ai membri della Consulta. Ne abbiamo parlato prima, gli stipendi dati, abbiamo raccontato un bel caso di Gettonopoli. Amministratori, quelli sono tasse, lo stipendio dato a Verdini. Vittorio, non ti indignare troppo, non ti apprendere troppo. Gente inutile. Sì, però ragazzi, va tutto bene, per carità, gli sprechi, però se uno dice non pago le tasse perché non voglio dare lo stipendio a Verdini, ad Alfano, beh è troppo facile però, non voglio pagare le tasse perché non voglio dare lo stipendio a quelli che fanno le rotonde, a quelli che fanno le pale oliche. Io anch'io a tanti. A un certo punto mi sveglio un giorno e dico non voglio pagare le tasse perché mi sta sui coglioni che in ufficio pubblico c'è gente che si gratta i coglioni. No, perché c'è Buonanno, non voglio pagare le tasse per Buonanno. Per pagare anche indirettamente Buonanno. Cioè, ognuno trova una scusa per non pagare le tasse e andiamo in bancarotta dopo un minuto netto. Poi per carità, ci sono sono alcuni uffici pubblici che bisognerebbe mettere del napalm e spianare così, con la gente fuori naturalmente, spianare direttamente, spianare. Ma funziona sto cuore di Sgarbi alla fine o no? Mi pare di sì. Sono in forma, però va tutto bene. Cioè, l'unica cosa che certamente funziona è il cuore, perché l'hanno rimesso in ordine. Il resto segna la decadenza di un uomo che sta diventando vecchio, perché ho una tosse che dura da 3 mesi, ho un mal di schiena, per cui mi hanno... l'unica cosa grave è quella più semplice, quindi chissà cosa mi capiterà per l'avvenire. Allora ragazzi, a proposito di educazione sessuale nelle scuole, contro cui mi sono battuto ieri, c'è una cosa da dire. Mi hanno scritto moltissime persone, uno di questi è un signore, adesso non mi ricordo come si chiama, che dice: l'educazione sessuale nelle scuole è fondamentale, sono classe 83, dunque non è un signore, è un ragazzino, una ragazzina, non mi ricordo adesso il nome e cognome, e ho avuto diverse lezioni di educazione sessuale alle medie, ma sono cresciuto con non sono cresciuto con disturbi per questo, mentre molti miei coetanei, anche oggi, sono convinti che le malattie sessualmente trasmissibili non possono passare attraverso il sesso orale, ad esempio. Vabbè, adesso non è che ci vuole l'educazione sessuale nelle scuole per scoprire che in alcuni casi anche col sesso orale si possono trasmettere certe malattie. Io sono contrario a questa cosa nelle scuole, semplicemente perché non serve, cioè quella è la vita, cioè quella è la vita. Beh, di tutti la vita, i giorni. Sai, però conoscere il proprio corpo, conoscere... Ma che c'è bisogno di uno che te lo dice? Di un insegnamento? Non lo so, boh ragazzi, mi sembra veramente un'assurdità. Però da questo momento in poi non voglio sentire nulla, non voglio sentire nulla, nemmeno una parola sul fatto che non si riescano a completare certi lavori parlamentari, cioè bisogna andare di fretta eccetera eccetera. Per carità, le ferie tutti, il Natale, il Capodanno, quello che volete. Però, amici miei, la Camera dei Deputati, dopo il grande ponte dell'8 dicembre, adesso non so quanti giorni, credo una ventina di giorni, fino a non so quando, una ventina di giorni ancora chiusa la Camera e il Senato, dai! Ieri sera da noi Parenzo si è incazzato moltissimo per questa cosa di Buonanno, dicendo che dovrebbe chiedere scusa per aver insultato la Boldrini, eccetera eccetera eccetera. La persona sì, la Boldrini. Sì, perché Buonanno cosa ha detto sulla famosa polemica della Boldrini: mi dovete chiamare la presidente invece di il presidente, puttanata inaudita. Ha detto: beh, non sappiamo se è donna, se è uomo la Boldrini. Beh, caro Buonanno, però se sappiamo una cosa è quella, capisco la provocazione, per carità, però di donna si tratta. Io dico questo della Boldrini: lei si vuole far chiamare la presidente, sì. Però chi ci dice che prima di Laura non si chiamasse Lauro? Anche nello sport l'hanno fatto, perché c'erano donne nell'atletica, sì, che non si capiva più se erano uomini o donne, ma visto che lei si impunta su questa roba come se ci dimostri che è donna, sì, per Superman, sì, sì. Ci dimostri che è donna, deve dimostrare che è donna. Dimostri che è donna. Vabbè. Un certificato e lo metto lì, lo attacca lì alla Camera dei Deputati. Cos'è che vuole fare il certificato uomo-donna? Che vuole fare? No, ma è una roba. Guarda, uno non si può sentire. Veramente mostra tutta la sua disumanità. Ma vabbè, disumanità, dai, su una battuta. Ma no, pure si può sentire, dai, ma no, non è una battuta la sua, non è una battuta. È brutta persona, proprio, brutta. Allora, come sapete, a me della separazione tra Belè Rodriguez e l'altro signore, come si chiama, Stefano Delartino, non me ne fotte nulla. So che è una cosa molto popolare. È un caso interessante, è solo per una ragione, perché probabilmente sarà lei a pagare gli alimenti al marito, e questo è molto bello. No, molto bello, molto brutto. Ah no, in questo caso per una volta potrebbe essere una cosa sarà positiva. Sarà lei a pagare gli alimenti al marito. Magari lui non li chiederà, dai. Comunque, la cosa più incredibile, ieri abbiamo sentito, tu non c'eri, c'è stata una telefonata surreale con il parroco che li ha sposati, che ha detto che sono due da due poveracci e che non voleva parlare, poi alla fine l'ho fatto addirittura, gli ho fatto fare una preghiera, un Padre Nostro, una cosa incredibile. Però al di là di questo, poi rimanderemo in onda tutto, e poi uno se la piglia con gli astrologi, signori miei, gli astrologi, l'astrologia, ancora c'è qualcuno che crede in queste puttanate? Beh, io sono tutte le mattine leggo l'oroscopo. No, l'astrologia, ma sì, ma è un divertissement, così, l'astrologia. Tutte le mattine io leggo Branco. L'astrologia, una cosa, metto mano alla pistola, tu l'astrologia. Tu che segno zodiacale sei di settembre? No, però, amico mio, aspetta un attimo, il punto è questo, leggo su Oggi, prestigioso settimanale. Beh, sì. Della Rizzoli, RCS, uno dei pochi, Mondo Rizzoli, uno dei pochi Rizzoli. Rimasti alla RCS, i signori di Oggi, che hanno pubblicato una previsione per il nuovo anno a firma di un signore che si chiama, che non conosco, che si chiama Mauro Perfetti, un astrologo con grandissimo tempismo, devo dire, con enorme tempismo, sotto la voce Vergine, non so chi sia Vergine tra i due, tra Belen e Stefano De Martino, c'è scritta questa cosa, senti, è uscito proprio oggi in edicola, oggi. Questa coppia resta forte perché lei è efficiente e metodica, lui dolce e disponibile. Io vorrei veramente parlare con questo signore. Separati? No, separati subito, innanzitutto, perché questo Perfetti, questo Mauro Perfetti, in realtà bisogna interpretarlo al contrario. C'è una grande valenza questo signore. Appena dice una cosa, bisogna credere esattamente all'opposto. Leggi Acquario un po', che sono io Acquario. E non lo so, adesso non mi rompere le palle, dai. Vittorio Feltri con noi, buonasera. Buonasera, ecco. Signori. Come andiamo? Ultima puntata. Un trionfo, assoluto. Come si avvicina il Natale, hai fatto i regalini? No. Non fai regali a Natale? No, non ne faccio quasi mai, men che meno a Natale. Natale non lo sopporti, Vittorio, dai, diciamo la verità. Natale è una cosa insopportabile, dai. Insopportabile. Poi Parenzo mi capisce, i regali costano, quindi è meglio evitare. No, io capisco perfettamente. E ma guarda che Parenzo fa dei regali, adesso non posso purtroppo entrare nei dettagli, che sennò mi ammazza Parenzo, giustamente, perché sono cose molto private. Ma non puoi dire la cifra, no, questa no, però, fa dei regali, di no, certo, no, per carità. Solo per quello, sai, no, sennò sì, potresti dirlo. Fa dei regali, cioè, puoi raccontare l'episodio senza dire la cifra. Spende delle cifre inenarrabili, secondo me, ma delle cose proprio ho regalato alla mia compagna. No, ma non gli credere. No, non gli credo io invece. Non gli credo. Avrà regalato un sacchetto di noccioline. No, ma no, ma devo dire, guarda, che al contrario, è uno molto generoso da questo punto di vista. Cioè, uno, io allora non faccio. Allora non lo riconosco più. No, è andato a fare un viaggio lunghissimo per procurarsi questo regalo e ha pagato tutto. Mi ha detto che ha pagato tipo quasi. No, la cifra, dai, non dirla. Non si può dire la cifra. No, perché, no, perché ascolta la trasmissione, non è mia compagna. Non è legale. 2 euro? No. Ti assicuro una cosa pazzesca. Solo di benzina 60 euro, questo posso dirlo. Solo di benzina. Siamo la follia. Senti, ma io non ho capito se tu credi nell'astrologia. Ma figurati, non credo neanche in Dio, ti pare che credo nella astrologia. Ma che segno zodiacale sei, direttore? Ma non lo sa nemmeno. Sì, lo sa. Tumore. Tumore, no, per carità. A proposito, ma tu ti faresti portare in Svizzera dai radicali? O ci andresti da solo in Svizzera a morire? L'eutanasia, che si sta parlando in questo giorno? Io sono assolutamente d'accordo con i radicali, che dicono delle cose ragionevoli. Non obbligano nessuno a morire, ma se qualcuno soffre, è terminale e desidera porre fine alle proprie sofferenze, loro danno una mano, e mi sembra un gesto umano apprezzabile che lo Stato dovrebbe ammettere, non dico incentivare, anche perché il suicidio è sempre una situazione drammatica, però ci sono dei casi in cui diventa necessario, quantomeno bisogna lasciare alle persone il diritto di scegliere se continuare a star male o se chiudere, anche in modo, diciamo, come dire, consapevole. Sì. Ma tu personalmente, per carità, non auguriamo niente a nessuno, tu fossi in una situazione, diciamo, drammatica, senza fine, ti dicono guarda, non c'è speranza, che fai? Lo fai o no? Beh, io sì, lo faccio, adesso mente fredda lo faccio, perché dal punto di vista razionale sarebbe da idioti dire il contrario. Poi può darsi che invece, trovandomi tra la vita e la morte, vuoi decidere prevalga in me la speranza di farcela anche stavolta, però questo non lo posso dire ora, però dal punto di vista, ripeto, razionale, sono d'accordo con chi sceglie il contrario. Allora, fermi tutti, torniamo dopo il traffic. Il traffico. La Zanzara. Senti, ma la cosa cosa più bella in assoluto in una intervista che ha fatto Vittorio Feltri con Libero qualche giorno fa è stata l'immagine di Berlusconi in giro per casa sua alle prese con la merda e con le merdine di Dudu e di Dudina. Cioè, Vittorio, dimmi che non è vero, no? È così? No, è così. Io naturalmente immagino, ma conoscendo abbastanza bene Berlusconi, so che tutto questo caos provocato dai cagnolini, ai quali magari non vorrà male, ma darà un fastidio enorme, anche perché è un igienista, quindi una cacchina di qui, una cacchina di là. Per cui non è animalista? No, non è un animalista, non lo è mai stato. Poi, cioè, Berlusconi non vuole bene neanche alle persone, figurati se può voler bene dei cagnolini. Ah, è uno che non vuole bene, dici? No, assolutamente, vuole bene a se stesso, giustamente, io non, ho, non lo sto criticando. Anzi, sei quasi come lui da questo punto di vista. Sì, esattamente, quindi non posso... Diciamo, cioè, gli rompono così. I coglioni, i cani gli rompono i coglioni. Gli rompono i coglioni perché intanto... ce n'erano già due, maschio e femmina, che hanno avuto la cattiva idea di figliare, e quindi adesso non so quanti cuccioli ci siano, e immagina tu che casino ci può essere al piano terreno di Arcole, nella via di Arcole. Ma alla fine stanno insieme o si sono separati con la signora Pascale? Ma chi ha pensato? No, stanno insieme, non so fino a che punto si divertano a stare insieme, questo non sono in grado di rivelarlo, neanche di certificare la loro che però Vittorio che brutta che fine Berlusconi, cioè... No, beh, che fine. Beh. Berlusconi è stato tutti noi abbiamo per un certo periodo lodato Renzi perché ci piaceva questo fatto del rottamatore, no? Uno che sfasciasse tutto per rompere col passato. In realtà in Italia l'unico grandissimo rottamatore è stato Berlusconi, in che senso? ha battuto Renzi 6-0 6-0, punteggio tennistico, perché Berlusconi ha fondato e costruito un partito, Forza Italia. Poi si è dilatato e ha fatto anche il centrodestra, che è riuscito a vincere molte elezioni. Ebbene, è riuscito a demolire non solo il centrodestra, ma ha demolito anche Forza Italia e addirittura è riuscito nell'impresa difficilissima di demolire se medesimo. Quindi ha demolito tutto. Allora, Renzi vicino a Berlusconi sul piano della demolizione è assolutamente un piccolo dilettante. Cioè, il vero rottamatore alla fine è Berlusconi, che ha demolito tutto. Ha demolito lo ha dimostrato. Mediaset è ancora in piedi, con qualche... Però è avviata bene, diciamo. Ha avviato la demolizione, ha avviato anche lì la demolizione. Il vero rottamatore è Berlusconi. Berlusconi, grande demolitore. Non possiamo anche non riconoscergli almeno questa... diciamo, questa qualifica gli spetta di diritto. Senti, ma tu hai consigliato ogni tanto, quando lo incontri, non so quanto lo incontri, a Sallusti di fare o di non fare il sindaco di Milano? Ancora non si sa. Non abbiamo fatto delle lunghe discussioni in merito. Io gli ho detto che vincere le elezioni a Milano è impossibile per mancanza di voti. Però, cioè, vince Sala sicuro. Vince Sala sicuro. Candidarsi come sindaco può anche essere divertente, però attenzione, perché mentre fa il direttore del giornale ha un bel reddito, non saprei quantificare. Beh, ma guadagnerà, insomma, sicuramente. Sì, guadagnerà, me lo auguro. 30-40 al mese di guadagnare. Me lo spero. E se invece si mette a fare il candidato sindaco, non solo perde lo stipendio da direttore, ma se anche casomai, cosa impensabile, dovesse vincere, prenderebbe 7.000 euro lordi al mese, fascia di povertà, come indennità di sindaco, che poi netti diventano 4 circa, e quindi sarebbe per lui un fallimento. Fascia di povertà praticamente. Dovrebbe anche fare qualche cena alla Caritas, presumo, e chiedere gli 80 euro. Comunque, Renzi, sai che hanno mangiato in un parco di Vicenza, si sono mangiati dei conigli, hanno preso dei conigli e se li sono mangiati. Io voglio capire una cosa: io e Feltri abbiamo questa grande diatriba sugli animali. Per carità, anch'io amo i gatti come Vittorio, i gatti li amo anch'io, devo dire la verità, non me li mangerei mai, per carità. Non me li mangerei, però lui li considera qualche volta più in... ci parla addirittura, ha detto, parla, ma come si fa a parlare con un gatto, Vittorio, dai, su. Ho detto un'altra cosa, io ho detto che mi intendo con i gatti anche senza parlare, tramite la telepatia, i gatti intuiscono, io che forse sono più felino che umano, riesco a capire i messaggi, o quantomeno ci provo e spesso ci indovino, per cui cioè non parli, detto... parli con, telepaticamente con i gatti? Comunico. Parlare è un solo umano. Vabbè. No, noi abbiamo la sintassi, la grammatica, che per qualcuno è non anche tutti, un pregiudizio borghese, diciamo, per noi che cioè scusa, abbiamo... pensi che tra Berlusconi e un gatto chi salveresti? Il gatto, naturalmente. Il gatto, cioè tu... A parte che il gatto ha sette vite, qualche volta li preferisci agli esseri umani? Di gran lunga, quasi sempre, che meno che a letto, perché a letto il gatto dorme e quindi stiamo bene insieme, c'è una simbiosi di tipo affettivo. Poi però se c'è una signora è meglio, possibilmente carina, io cioè non sei, come si dice, ecco, purtroppo capita sempre più raramente data l'età, però comunque apprezzo ancora, anche se non ricordo bene perché. Vabbè, adesso non esageriamo, dai, su, cioè, oltre 70 anni si può stare, si può andare alla grande, No, però si può. Comunque, andare. La tua certezza sulla vittoria di Sala non farà piacere a, cioè, ai signori. Ma io non faccio il tifo per nessuno, mi limito a fotografare la realtà e ne trago le conseguenze. Cioè, come si possa battere Sala in questo momento a Milano, con tutti i borghesucci milanesi che hanno sposato il renzismo, mi sembra veramente... Cioè la borghesia milanese è dalla parte di Renzi. Beh, diciamo. Sì. C'è il minimo e dunque sarà dalla parte di Sala, che non è un estremista, ma è uno... Infatti è anche rassicurante, ha fatto l'Expo e questo gli ha dato un'esposizione mediatica notevole. E Salvini perché non si candida? Ma perché è furbo. Tu che lo senti, vi messaggiate ogni tanto? No, sì, ogni tanto, poi ci parliamo, l'ho visto anche l'altra sera, ma siccome Salvini è tutto meno che stupido, sa benissimo che dovendo guidare un partito importante del 15-16%, tra l'altro i voti li ha quasi tutti al nord, e quindi se noi facciamo le proporzioni al nord è il primo partito, e come fa ad abbandonare il partito per fare il sindaco di Milano senza una lira? Tu gli hai sconsigliato? Io l'ho sconsigliato, che non c'è una lira da investire. E poi che fa lì, poveraccio? E del Debbio? Del Debbio ci hai parlato? Sì, anche a Del Debbio ho sconsigliato di pure fare il sindaco, mi ha sempre dato ragione. Un tempo c'era la mania dei sindaci, certo. Si voleva addirittura fare il partito dei sindaci. Adesso oggi una tu sfiga. Un sindaco lo trovi solo tra gli sfigati. E Salvini non è uno sfigato. Berlusconi dovrebbe chiudere la sua carriera candidandosi a sindaco di Milano. Non può. Sì, ci manca solo quello. Così Milano, ti dici rottama pure Milano. Rottama tutto ormai. Senti, lo sai che ho un'intuizione. Secondo me, sulla annosa vicenda Parenzo del bidet, Feltri la pensa come me. Questo è un tema che scottante, Cruciani è un tema importantissimo. Mi sto facendo una cultura pazzesca. Secondo me, perché ci te lo fai poco, abbi coraggio di dirlo, vero, al direttore vero, con no, cui no, intanto poco, vai sempre, a colazione. Sempre. Cruciani non si fa il bidet. Ecco, no, questo ma non è vero, non ho detto questo. Io me lo faccio assolutamente. Però secondo me ci si può. Io non credo che data la sua intensa attività sessuale, non concepisco che non si faccia il bidet. Però ci si può lavare con le mani o no, Vittorio? Dimmi solo questo. Ci si può lavare solo con le mani, perché con le orecchie io non riesco a fare niente. Sì, certo, no, con una pezzetta, cioè le mani si possono mettere sul sedere, la proctologa ha aperto questa discussione interminabile. Ma scusa, ma questa qui, poverina, adesso vorrei fare una conversazione, può darsi anche che abbia delle ragioni, sì. Però se uno si lava con qualsiasi attrezzo tranne le mani, penso che non si lavi affatto. A presto, Uber Alles, ciao, buon Natale, ciao. Buon Natale. No, buon Natale, per carità, non ho bisogno dirlo, perché l'ho pronunciato. Sono tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero. Audiogrammi speciale Natale. Sei Alex Larson? Dipende da chi me lo chiede. Ti ho mandato una lettera. Chi mi conosce non mi scrive, perché non so leggere. Per cui non posso conoscere uno che lo fa. I grandi classici del cinema e della letteratura raccontati alla radio. Il signor Davis ha detto che dare un'istruzione a una donna è utile quanto dare un'istruzione a una gatta. Il 24 e il 31 dicembre, tornate bambini. Vivrete le emozioni di due grandi storie, come mai le avete ascoltate. Deve tornare libero, è la sua magia. Vi aspettiamo il 24 e il 31 dicembre alle 22 su Radio 24. Audiogrammi, in radio come al cinema. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. Segnale orario. Ma che cazzo ce ne frega del segnale orario? Io voglio sentire Cruciani, voglio ascoltare Cruciani. Sono malato di Cruciani. Consiglio a tutti gli ascoltatori: Zanzara e marijuana, Zanzara e marijuana. Sì, ma ragazzi, ultima puntata dell'anno, ho detto mica ultima puntata della stagione, cioè, ho detto ultima puntata dell'anno, qualcuno mi ha scritto ricominciamo il 6, il 4, quando è? Il 4 di gennaio. Il 4. Il 4 gennaio, 4. con calma, con molta calma. Mauro Corona, i primi rapinatori di banche sono i banchieri. Penso che i primi rapinatori di banche siano i banchieri stessi e per loro non scatta mai l'allarme. C'è quest'idea molto diffusa che i banchieri siano veramente dei banditi, cioè siano i primi truffatori. C'è un'idea diffusa da moltissimi anni, no? Che le banche depositarie dei nostri soldi, gestori dei nostri soldi, e siano in realtà, no, dei veri e propri usurai. Brecht, usurai. Lo diceva già Bertolt Brecht, non so se sia più un crimine citazione colta che mi fai una stasera. Banca o rapinarla, diceva Brecht. Però non è stato inventato un altro modo. È stato inventato un altro modo dove depositare, appunto, i quattrini ancora. No, è gente che te li presta, soprattutto. A meno che te li presta. Non è stato inventato un altro modo, a meno che uno non voglia, come molte persone che conosco, fare con lo spago, no? Cioè, come faceva Totò, con i soldi sotto il letto. Sì, con i soldi. Nessuno lo impedisce, per carità. Ma io credo, ma se tu dici che vuoi essere pagato in contanti, lo puoi fare, secondo te? Farti dare i soldi, lo stipendio, oppure non te lo danno in contanti. No, perché c'è la famosa soglia, no? Ah, quello sì, del prelievo. Non lo so se. No, se io voglio i soldi in contanti. I tuoi. Invece di farmi i tuoi, anche. Beh, i tuoi sbanchi la 24, non ce l'ha. No, mille. Ma anche i tuoi. La moneta per... non esiste, è virtuale. Ma non come c'è. Virtuale, dai. Se tu vai in banca e dici scusi, mi dà 20.000 euro quello che ho sul conto, non te lo danno. Non ti danno, non esiste la moneta, è una convenzione morta. Si deve pagare con l'online, con internet, con il bitcoin, tutto normale. Allora Marco, provincia di Venezia, vai con gli ascoltatori, 800 24 00 24, chiamate, vai. Buonasera Giuseppe, dimmi. Grazie dell'ospitalità. Volevo, diciamo, fare una lamentela contro Sgarbi, perché è una sciocchezza incredibile. Le rinnovabili non le paghiamo con le tasse, ma con la bolletta dell'energia elettrica. Quindi ha detto proprio un'idiozia, ha dimostrato di non essere competente nella materia, perché anche se non paga le tasse. Vabbè, comunque dai, adesso lui dice semplicemente non voglio pagare le tasse a quelli che autorizzano le pale eoliche. Lasciamo perdere tutti i discorsi tecnici sulle pale eoliche. Lui è contro le pale eoliche, dunque se un sindaco autorizza una regione, eccetera, eccetera, le pale eoliche, lui dice non voglio pagare lo stipendio, non voglio pagare le tasse che contribuiscono a pagare lo stipendio a un criminale che secondo lui è quello che... Sì, ma scusami Giuseppe, ma sì, il frigorifero di casa Sgarbi con cosa funziona? Lo facciamo funzionare a carbone? Cioè, no, ma che c'entra questo? Scusa, è troppo comodo fare un ragionamento del genere. Sì, no, ma... No, cioè dice, se deve essere coerente, capito, in questo, ha ragione. L'obiezione dell'ascoltatore non è così folle. Allora l'energia a casa tua, quando accendi la televisione, con cosa la facciamo funzionare? Cioè, ma questo che c'entra? Questo lui dice, la facciamo funzionare comodo, in questo momento, soprattutto comodo. Col petrolio. Ma per me la cazzata è un'altra, non è questa. Uno può essere contro le pale eoliche per motivi estetici, come Sgarbi. Sgarbi dice: non vogliamo pagare le tasse, non voglio pagare le tasse. non voglio pagare le tasse, credo che abbia un debito nei confronti dell'erario, non so di quanto, per IVA non pagata, cartelle esattoriali, eccetera, eccetera, ma sta tutto il mitico, mitologico avvocato Cicconi, il quale, voglio ricordare, una volta riuscì a salvare Sgarbi in un processo perché aveva definito merda qualcuno, cioè è riuscito a far passare, beh, nella sua abilità straordinaria, la definizione di merda come qualcosa di non offensivo, cioè uno dice sei una merda, sei una merda, eppure lui è riuscito a salvarsi in tribunale, ti giuro. Quali sono le argomentazioni? Sì, non lo so, ricordo anche io di averlo letto. Incredibile, una cosa incredibile che solo la bravura, la genialità di questo professionista del foro. Ma esiste davvero questo avvocato poi? Ma sì, è una che figura... sembra un po' come la moglie del tenente Colombo. È una figura mitologica. Però riuscì a fare evitare a Sgarbone una condanna dopo che Sgarbone definì merda, tra l'altro adesso è riuscito pure a fare pace con la Cancellieri, cioè se tu ti ricordi di quello che aveva detto la Cancellieri, aveva detto delle cose pazzesche alla quindi anche con Alfano potrebbe far pace però. Alla fine potrebbe riuscire a far pace con Alfano, non so se Alfano l'ha portato in tribunale, la Cancellieri l'ha portata in tribunale perché gli ha detto, ne ha detto ovviamente di tutti i colori, e c'è stata, pare, una grandissima riconciliazione. Magari mandiamo tutti i file di Sgarbi contro la Cancellieri. È riuscito a ottenere perdono anche dalla Cancellieri, una cosa incredibile. Tazza di merda! No, questo non c'entra, non l'ha detto tazza di merda. Tazza di merda è un'altra all'epoca cosa. Di Radio Belva era. Credo, se non ricordo male. Però l'audio, noi non l'abbiamo correlato, non l'abbiamo correlato. No. Francesco da Napoli, dai. Per la parola tazza, no. No, vai. Pronto? Dimmi. Sì, allora ti faccio gli auguri prima perché. Ma non mi fare gli auguri, ragazzi. Fanculo, sicuramente. Ti voglio dire una cosa. Mi mandi a io volevo intervenire per quanto riguarda il fatto del signore pedofilo che l'hanno arrestato. Sì, sì. Che è uscito sui giornali. Però prima di questo ti posso dire le cose cruciali. Dimmi. Ma da dove chiami? Da dove chiami? Da Napoli? Da Napoli, però sono calabrese. Ah, ecco, sentivo l'accento calabrese. Allora, alla pancia degli animalisti, oggi avrò ammazzato più di 100 polpi. Quanto hai mangiato? Scusa? 100 polpi. Ho ammazzato più di 100 polpi alla pace degli hai animalisti. Ammazzato più di 100 perché tu sei un pescatore. E ci vendono già la seconda volta che ci tendiamo. Ma capito, amico mio, non mi posso ricordare tutto io. Esatto, cioè... Però ti volevo dire una cosa. Hai ammazzato come si ammazzano i polipi, amico mio? Boom, boom, si batte la testa. Esatto. No, gli tagli subito la testa. Tac, gli tagli la capa, no? Tac, gli tagli la capa, tac. Yeah, poi che fai? Sbatti dopo? Sbatti No, no, sbatte quando si fanno gli scogli, noi li andiamo a preparare per la ristorazione, noi glieli tagli, glieli mette nella cassetta, tu puoi muovere subito. Vabbè, poi devo vedere un altro. Ieri tu hai fatto parlare il signor Salvini. Io posso capire, no, che la Boldrini è incapace, ma non indegna. Indegna era stata Rosi Mauro che è con mare sua. Comunque lasciamo perdere. Poi il fatto. Lasciamo Rosi perdere Mauro. Tutto, lasciamo perdere. Poi un'altra cosa ti voglio dire. La classifica della vivibilità di Napoli, chi è che la fa? Solamente 4 ore? Sì, anche, sì, certo. E mi stanno facendo un favore al lettiere. Comunque ritorniamo alla storia ma del quale pelofilo. Favore al lettiere? Ritorniamo alla storia del pelofilo. Allora, io siccome non c'ho la televisione, mi colloco sempre con il computer. Guardate il quotidiano della Calabria, vedo un signore pedofilo che si chiama Columbra Antonio. Chi è? Facci capire, Parenzo, metti innanzitutto avvicina la voce meglio al telefono. Io ho capito il quotidiano della Calabria. Sì, togli forse il viva voce, non so che no, hai. No, non c'ho viva voce, sono sul balcone, Cruciani. Sei sul balcone, benissimo. Ecco, bene, avvicina un po' di più la bocca. Ecco, alla mi senti adesso. Allora. Perfetto, guarda, perfetto, Francesco. Allora, l'altro giorno, guardando sul computer, avevo guardato il quotidiano della Calabria e vedevo Campizio, il mio paese, hanno carcerato un pedofilo. E il giornale diceva pure pedofilo seriale, un certo Tony Columbro. Tony Columbro, questo bastardo maledetto e figlio di puttana, quando avevo 13 anni, a me mi ha terrorizzato, io non andavo tutti più a correre. Tutti adesso parlano. Allora, a 13 anni che cosa? A 13 anni noi facevamo, diciamo, mezzo fondo, correvamo, lo sai, i ragazzi giovani. E che ti ha fatto questo qua? Tutti qua? Un amico mio mi aveva detto che aveva trovato un professore bravo di educazione fisica che aveva i subacquei. Praticamente, quando sono andato assieme a questo mio amico, a questo qui, io me ne sono accorto, disse guarda Salvatore, chi sei Riccioni, che professore, e mi sono messo a scappare. Questo qui, no, negli anni non ha fatto mai violenza fisica alle persone, però mi ha terrorizzato. Mi ha detto non ti faccio più correre, ti metto sotto con la macchina. Io 13 anni non mi vergognavo. Ma perché? Che voleva da te? E voleva che ti faceva la pugnettella davanti a lui. Vabbè, davanti, ma insomma, questo, perché è ritornato d'attualità questo Tony Columbro? Perché l'hanno arrestato 2 giorni fa, è uscito sul giornale di nuovo. Di nuovo? Ma perché? Per sul giornale di Calabria adesso, con tutto rispetto. Sì, a Pizzo. Quando sul quotidiano della Calabria scrive Pizzo. Vabbè, andate a controllare, ragazzi. Giornale della Calabria, Pizzo Calabro, Tony Columbro. te ne assumi la responsabilità, te ne assumi la responsabilità di quello che dici. Io non voglio, non voglio casino, no, pure dai pedofili, presunti pedofili, No, no, ma non ce lo dice il giornale, se no non ma dimmi una cosa, tu lo sai come sei, su come quella femmina che è buona, te la fotte, però certe volte perché ti fai praticamente da tutte a volte sei, non riesco a dirtelo, hai controllato questo qui se è vero quello che ti dico io, ce l'hai con Napoli, ma perché ce l'hai con impazzito, ce tutto da solo fa. Tutto da solo, no, non sto parlando con te, non stavo parlando con te, ma perché non vuoi parlare, perché non vuoi parlare con Parenzo, scusa? Come no, con Parenzo che sta dicendo che non voglio? Parenzo mi è sembrato che è pure di sinistra come me, però è sempre ebreo. Vabbè, ma che c'entra qua? Questo che però non c'entra. Qualche bambino si c'era sul fatto della Palestina, delle posizioni che non sono d'accordo. Vabbè, con lui. È d'accordo. Comunque tu perché ce l'hai con Napoli? Ma non ce l'ho con Napoli, amico mio. Sì, Cruciano, è già ma ieri quanto l'altro giorno ha detto 101. Vabbè, ma ho detto una cosa normale, cioè che Napoli è al 101esimo posto. Non è così. Non è così, ma ti posso ma ci sono dei criteri, poi va bene, la gente fa. Vuole vivere a Napoli e probabilmente si vive meglio a Napoli piuttosto che la città più bella del mondo, ma sì, tu ma basso criticità a Napoli già quanti? Criticità che c'è a Napoli rispetto alle altre città e Napoli praticamente ti spiego una cosa, convivere con la camorra non è che si convive, non è appunto. Che tu ti dici subito che la mandi via. È una cosa storica, un processo lungo che va. Vabbè, questo sindaco di Foderappa sta lavorando bene. Hai controllato lì? Buona serata. Ma adesso fa tutto da solo. Adesso controllo. Hai controllato. Controlla. Ma la pedofilia, la camorra. Ma hai controllato questo qua? Alessandro da Udine, numero uno, Francesco. Fate presto. Alessandro, vai. Controllate, fate presto. Controllate la notizia, fate presto! Sono qua. Carissimo Cruciani, dimmi, allora un intervento di natura tecnica. Fai presto, tecnica, per pulirci il culo, ecco. La carta igienica non basta, lascia tracce indelebili. Ma anche per pulirsi il culo non basta neanche l'acqua del bidet. Vabbè, allora che bisogna fare? Bisogna aggiungere il sapone. Ma lo sappiamo questo, non c'è bisogno che ce lo dici tu alle 19:29. Io utilizzo il sapone, non sono particolarmente. Non è vero, non avete mai parlato di sapone. E vabbè, non abbiamo parlato perché lo diamo per scontato, non è che uno si lava così. Ogni tanto io, per esempio, quando non lo trovo accanto al coso, non lo uso, mi sciacquo così senza sapone. Va bene, ci vuole un saponcino leggero, a pH. D'accordo, Alessandro, meno male che c'è lei. A pH? Meno male. A pH della pelle, caro Cruciani, sapone e ancora sapone. Vabbè, Alessandro, ciao. La zanzara. Hai controllato lì, buona serata e migliori auguri, ciao Cruciani. Zanzare come le donne, alcune volte potrà starti sui coglioni, ma quando non c'è ti manca. Andiamo ad Alessandria, da Franco, dai, 800 24 00 24, ultima puntata dell'anno solare, ultima puntata, così si creano anche delle aspettative. Noi non raccontiamo mai cazzate, adesso bisogna raccontare cazzate proprio oggi, dai, su Spa. Qui c'è una trasmissione di una trasparenza incredibile, forse la trasmissione più trasparente che c'è in Italia, dove la gente confessa qualsiasi cosa, anche noi. Trasparente ma non inesistente. Beh sì, meno male. Franco, non è male. Franco, vai, dimmi. Buonasera. C'è qualcuno, dottore, che crede ancora, scusami Franco, ho letto oggi un bellissimo articolo di Massimo Fini sul Fatto Quotidiano, c'è qualcuno che crede anche in Osho, cioè ti giuro io non ci posso credere. Sì, ma cioè, non capisco però perché tu ti arrabbi così tanto delle credenze altrui. Osho, amico mio, Osho, vogliamo parlare di Osho. Osho, ti prego, dimmi qualcosa su Osho. Giustamente Fini dice Moccio. Ci sono un sacco di donne che credono in Osho, non ma solo le donne, Osho? Anche gli uomini, ma molte donne. Dice Fini che hanno sostituito Osho al maschio, cioè il maschio non c'è più. Questa può essere anche un'interpretazione, signor Fini, Massimo Fini, non non Gianfranco Fini, sì, vabbè, scrittore giornalista, che dice: gli uomini hanno, credono tanto, no, nell'esoterismo, nella, no, in questo, in questi santoni eccetera, perché gli manca, manca alle donne il maschio, non c'è più il maschio di una volta eccetera eccetera eccetera, serviamo solo a portare le valigie, qui un po' non è vero, ma comunque, e dunque si rifugiano in Osho. Amico mio, Osho, io ho un sacco di gente che leggi un libro di Osho. Ah, tu conosci gente così? Ma vaffanculo, il libro di Osho, ma leggi un romanzo, leggi un che ne so, Topolino, un libro di Osho. Io voglio aprirlo, voglio che mi chiami qualcuno stasera che crede in Osho. Chiamiamo Osho. No, ma Osho non si può chiamare. Ah, non, chiamare. Non lo so. Perché dov'è Osho? Ma che cazzo ne so, Osho, Osho! Franco d'Alessandria. Pronto, buonasera. Dimmi, Franco, dimmi. Su Osho non posso darle una mano perché non so chi sia. Comunque, per il discorso, beh, di è uno prima di questi santoni che insegnano, no, l'equilibrio nella vita, altre cose ancora. Beh, ma si potrà chiamare, certo, sto Osho? Ma no, ma non è italiano. Ho non capito, è italiano, sì. Forse è anche morto, non lo so. Noi raggiungiamo chiunque ricordo, può chiamare è un Osho. Nome che sento ogni tanto. Ogni tanto ho incontrato delle donne in vita mia. Osho, in vita mia, amico mio. No, in vita mia, ogni tanto ho incontrato delle donne, ti giuro. Che ti... Sto leggendo un libro di Osho, è bellissimo. Ma che gente frequenti tu? Sto leggendo un libro di Osho. Io, dopo due secondi, è evidente che abbandonavo il terreno. No, dopo aver fatto quello che dovevo fare, naturalmente. Ah, i tuoi comodi, eh? Certo, Franco, vai, dimmi. Questa sera sono in totale disaccordo con lei. Sono ma meno male. Ma è sardo, capita. Di solito sono... Dimmi, dimmi. Sono a suo favore. Sulla questione dell'astrologia. Vedi. Se ragioniamo un attimo... Sì, sì. Ha fatto meno danni delle religioni, delle meta-religioni, eccetera, eccetera. Per un motivo molto semplice, ma l'avevano già scoperto gli antichi, che avevano 20 dei, eccetera, eccetera. Quindi lei era seguace di Giove, io di Marte, buonanotte, ognuno... E si conviveva tutti, no? Vabbè, allora? Quando le religioni sono uno o due, e troviamo l'avversario. Eccolo là, il male, di qua io ho ragione, lui c'ha torto, ed escono dei disastri epocali. Dunque? Quindi bisognerebbe incentivare l'astrologia, secondo me. Che cosa anche perché io sono del Cancro, non posso, cioè, mi metto nella testa che non so, ce l'ho col Capricorno, perché magari ho un amoroso del Capricorno, no? Ma non posso avercela con 11 segni, perché sennò divento uno psicopatico. Così mi sfogo un po' al mio incazzamento, non faccio del male a nessuno, e poi teniamo conto che i segni si distribuiscono da nord a sud. Vabbè, ma che vuoi dire con questo elogio dell'astrologia? Lui ci crede, basta. Cioè, credi nell'astrologia? Vabbè, pazienza. Ma ognuno... manco per niente ci credo, però... Secondo me un buon prete deve essere ateo, e quindi non credendoci... Beh, ateo è difficile, un prete. Un buon prete deve essere ateo. Secondo me i migliori sono atei, non ci credono per niente. Sai chi mi hanno detto che è un grande fan di Osho? Il signor Fabio Volo, mio amico Fabio Volo. Veramente? Grande fan di Osho, sì, di Osho, amico. Ah, di Osho si mette, Osho. Non Osho. Osho. Ma mi spiace perché i libri di Fabio Volo e i film mi piacciono, quindi... vabbè. Franco, meno male, non sei una persona snob, vai. Dove andiamo? Sì. Antonio, provincia di Reggio Calabria, vai. Buonasera a tutti quanti, Osho, Luciano. Alla lingua Osho, certo, come no. Vai, vai. Niente, io ti chiamo solamente per sentirti quattro cazzate vegetariani, vagani, vagozzi, come si chiamano loro. Sì, ma naturalmente molti vegetariani sono anche fan di Osho, vanno le... Ma che sono tutti massi pazzi. Sono massi pazzi. Perché ti dico questo? Io vabbè, Anto, allora... come ammazzo i conigli, ammazzo tutti gli animali così, no? E gli scando, prima una botta dalla testa, e tutti i problemi non sono mai esistiti. Poi anche i bambini guardavano quando io l'ammazzavo, mio figlio, tutti quanti. Vabbè, e allora? Che mangiare carne non è vero niente che fa diventare la pistola meno attiva. No, io non ho capito una cosa, tu ammazzi conigli? Io ammazzo con un pugno in testa e poi li sgoccio e poi li pulisco. Detta così è brutale, però. Vabbè, ma come li deve ammazzare? E come bisogna ammazzarli i conigli? In un altro modo. Qua si ringa come fanno in America quando ammazzano le persone. Un pugno in testa, lo sdoni, vabbè. E uscanni. Vabbè, certo. Ciao, niente, Osho non si può invitare perché ciao, è morto nel 90. Appunto, ciao. Scoperto ciao. Adesso. Ciao. Io devo dire la verità, ci ha snobbato per un sacco di tempo, caro Parenzo, forse ce l'aveva anche con me, io non riesco a capire il motivo, perché francamente non sono riuscito mai a capire bene il motivo, però è tornato tra di noi e io sono molto contento. Carlo Freccero, come andiamo? Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Carlo. Buon Natale, eh? Buon Natale, ma ragazzi. Che gli frega tanti Natale, auguri, eh? Tanti auguri in generale, buone feste, buon tutto, dai, buona fine, buon inizio, fine, dai. Senti, dai. Ma Parenzo in televisione funziona? Dov'è questo? Ma ieri, guarda, io ho visto il programma, perché tu sai che sono sempre curioso. Purtroppo era un programma fuori agenda, perché tutti parlano, c'è cioè, una cosa, sembrava una replica di un programma, lo dico come dispiaciuto, perché... ma lo era, infatti. Sì. Cioè era dichiarato che era un almanacco delle cose accadute, messe però insieme. Non puoi fare, cioè, ancora quel prete lì che dice sempre le solite cose, cioè era sbagliato, peccato, perché si era fatto quel programma lì, era fatto un mese fa, era perfetto. Vecchio, lo... vecchio, dai. Lo dico perché mi dispiace, cioè, siccome l'ho visto perfettamente, poi c'erano le solite ripetizioni totalmente, cioè cose... Adesso non volevo, Parenzo, ti giuro, non l'ho fatto apposta. Maestro Freccero, però può dire, maestro Freccero, essendo... No, te lo dico sinceramente, perché tu sai che io credo questa copia penso che funzioni molto bene, però dovevate farlo sulle banche, dovevate farle su altre cose, non su quella cosa lì che ormai è fuori agenda. Tu lo sai che ormai la TV brucia tutto, quindi brucia velocemente ogni cosa, mi sembrava una replica, oltretutto poi aver scelto quel vescovo lì. Che dice le solite cose. Sigalini, dice... Monsignor Domenico Sigalini. Insopportabile. Vabbè, non ti piace, però quello lì ha fatto. Quando... Ma no, è insopportabile perché è ripetitivo, poi dice delle cazzate. Rischia veramente, cioè, fa male. Insomma, mi è dispiaciuto. Insomma. Peccato perché invece loro due sono bravi. Bastonata di Freccero a Parenzo. Peccato. Una cosa pazzesca. Senti, ma io voglio capire una cosa. Non è vero. Non è no, ma lo sto scherzando, perché, dai, una critica, è una no, critica no, normale. Parenzo e Parenzo e il suo socio sono molto bravi, secondo me possono fare un bel programma, però non devono fare le cose che avevano già fatto, dovevano studiare davvero. Cioè non dovevano improvvisare, tu dici, non dovevano improvvisare. No, dovevano in qualche modo studiare una cosa nuova, hanno fatto una cosa che avevano già letto, riletto, preparato, eccetera. Sbagliato e era fuori agenda, punto e basta. Senti, ma tu sei preoccupato come il Fatto Quotidiano, per esempio, del fatto che la Rai è in mano adesso, sembra? No, io no, assolutamente, anzi, sono molto, siccome se ci fossi io al posto di Dall'Orto sarei molto meglio, cioè farei molto bene. Molto meglio. No, molto meglio. Vabbè, non c'è niente di strano che lo dici. No, perché io credo sì. Molte persone. Aspetta, avvicina bene la bocca, se no non si sente niente. Avvicina la bocca al microfono del telefonino. Sì, ma perché io sono convinto che ci siano delle persone molto capaci e fatti. E tra queste beh, mi auguro che sia anche il capo dell'oro capace. Credo, oltretutto, anche ma... consigliere una volta. Non ho mai contato nulla, perché i figli conti erano sempre. I consiglieri erano in qualche modo. Ma tu ci parli ogni tanto o no? Con capo dell'oro? Io faccio due cose, parlo ai consigli del ministro, parlo durante il consiglio e naturalmente vedo la Rai, vedo la televisione, le due cose. Io credo che... Sei l'unico perché lì dentro mi sa che è di televisione, Che dici? Io ti dico una cosa sola, io credo che Campodonotto abbia una grande possibilità, se la sa fare bene farà una cosa veramente nuova, se invece naturalmente... vabbè, questo è d'accordo. No, ma la domanda però è una sola, Carlo, scusami, la domanda che ti faccio è questa, il Fatto, non solo il Fatto, anche altre persone, eccetera, politici, eccetera, criticano il fatto che Renzi si è preso la RAI perché ha fatto questa riforma in cui dà grandi poteri al direttore generale che diventa praticamente una specie di amministratore delegato, che è Campo Dall'Orto. Tu pensi che sia una cosa eccessiva oppure no, questa critica? Allora, per capirsi, io sono anche renziano, quindi tu lo sai benissimo, ma in questo senso penso che sia giusto dare questi poteri, anche perché così tutto è trasparente. A questo punto se lui sbaglia deve essere licenziato e fatto fuori immediatamente, quindi mi sembra molto più chiaro questa cosa. Io credo che un'azienda come la RAI non debba essere in qualche modo lottizzata, ti do una casella a te, una casella a me, una casella all'altro, io credo che ci sia una nuova, in qualche modo un nuovo scenario televisivo dove conta la competenza, conta il rinnovamento. Oltretutto penso naturalmente che ci siano persone, ci sono dei validi professionisti in Italia. Però allora le critiche di Mentana che ha fatto... Mentana, cosa? A parte che io sono incazzato, vedrai domani come rispondo al Fatto, cioè sono incazzato nero con lui perché non può dirmi me lottizzato da 5 Stelle, quindi veramente lui pensa, siccome lui è avvelenato perché non ha fatto lui, che è il direttore generale, quindi diciamo la verità, cioè paese. Lui è avvelenato perché non ha fatto lui il direttore generale. Esattamente, molto semplice, per cui pensa che c'è naturalmente 75, non è vero, perché se l'avesse fatto lui io avrei pensato che lui in qualche modo ha delle possibilità, avrebbe avuto, cioè le sue accuse sono anche che adesso tutto il potere è concentrato su Palazzo Chigi. Sbagliato questo qua secondo te? Beh, l'ha detto anche Freccero questo, però, che la nomina del presidente è una nomina del che attiene a quell'area politica. Beh, è chiaro questo. Sì, no, è chiaro, però anzi lui ha detto che proprio non è, allora ragazzi, allora seguito un attimo, non è un problema di area politica. Chiunque, e come no, è un problema anche di competenza. Il problema, chiaro che ognuno di noi è chi ci metti là, e chi ci metti là, no, certo. È un problema di persone, e chiaramente avvicina la bocca, se no non si capisce, scusa Carlo, mi capisci? Ecco, sì, sì. Ecco, è una persona di competenza, chiaro. Allora, se in questo caso non ci sono più equivoci, se lui farà bene, sarà molto, per cui le critiche di Mentana sono infondate, perché lui voleva fare lui il direttore generale. Tu non sei lottizzato, tu non sei lottizzato assolutamente, no, per capire, anzi la dimostrazione è che addirittura sono in qualche modo, per me è un'occasione d'oro per la RAI, perché finalmente potranno scegliere persone non dei partiti, ma che hanno competenze specifiche. Poi queste persone sono dei partiti. Non, senti, importa. Ma qual è il problema? Il CDA è tutto nominato dai partiti, cioè con nomi segnalati, ma sì, dai, ma partiti. Ragazzi, però non conta nulla sto CDA, lo sai benissimo, per favore. Non conta nulla. Ma d'accordo, ma questo non conta nulla. Vabbè, tu non conti un cazzo, allora. Nulla, assolutamente, puoi capire, sono il primo a dirlo. Cioè sei il primo a dire che non conti nulla. No, l'unico fatto è che capirò, sono benissimo, cioè, però è chiaro che io porto, però non conto nulla, ma se le cose vanno male porto il dibattito fuori sulla rete, nei giornali, eccetera, per cui dovrò fare. Cioè sei lì a stoppare, diciamo, a scoprire i casini, a scoprire le cose, come a tirare cioè, fuori quello le magagne. Che fanno i 5 Stelle in Parlamento. Dai, ma questo vabbè, questo è dichiarato, giusto, mi pare, no? È così? Io cerco di ad esempio, ti ricordi che quando... Ma è così, come l'abbiamo detto, fa quello che fanno i 5 Stelle in Parlamento. Io faccio quello che è competente, che caccia le 5 Stelle, per favore, non rompi i coglioni con le 5 Stelle. No, ma nel metodo hai detto. Non hai mai sentito Casaleggio, l'hai mai sentito? Ma io non l'ho mai sentito, perché a più se impara Casaleggio parla con me, ma deve, no, mai, nessuno mi ha mai chiamato, mai. Ti racconto una cosa, ti dimmi. Ricordi che appena nominato Campo dell'Orto si faceva il nome dei direttori generali di Leone e di un altro, non so, ricordo. Sì, più. Sì, come no? Non me lo ricordo adesso chi, comunque. Vabbè, io appena sono arrivato lì ho detto, se per caso fate questi due vuol dire che chiaramente tutto questo il vostro lavoro è... in qualche modo sottolineato l'espressione più lampante della lottizzazione che c'è stata. Beh, appunto, hanno fatto Campo dall'Orto, però. Campo dall'Orto, però il problema è che Campo dall'Orto, bisogna vedere, secondo me ha delle competenze, quindi bisogna verificare un attimo sul campo. Insomma, sei prudente, tu, è Leopoldino, no. È renziano, però aspettiamo, tu quello vuoi dire. Ma che sia renziano non c'è dubbio. Ma io, allora... Se uno è competente, poi anche se fosse in qualche modo di la Lega in televisione, lo rispetterei. Certo, ma certo. Anche se mettono Gasparri, diciamo. Beh, Gasparri non è capace di fare televisione, l'abbia dimostrato. Per cui non... No, a capire di te. Beh, non è il suo lavoro. No, Gasparri no. Gasparri quello che ha ucciso sarebbe persino lui stesso, capisci? Sarebbe veramente è uno incapace, quindi lo sappiamo tutti che è incapace, eccetera. Ma chiunque, se fosse uno, conosco persone. Sì. Ci possono essere persone, come dire, nominate, sì, direttamente dai partiti, ma competenti, va bene. Senti, il programma più renziano, secondo te, oggi alla RAI qual è? Ma allora, guarda, io ti dico, è sempre l'ultimo che si vede, renziano. Io ho visto la puntata di Petrolio lunedì che mi ha colpito molto. Beh, allora, vedi come sono io. Bisogna sempre vedere la televisione. Era una cosa, praticamente sembrava uscito da Leopoldo, sembrava il conduttore, un conduttore giornalista di Rai 1, eccetera. Ha recuperato persino Duilio Gianmaria. Sì. Ha recuperato persino, ancora una volta, ormai che è terminato, l'Expo, facendo tutto quanto un inno che l'Expo ha aiutato il commercio. Quindi pensa alla prima, quindi e tra i talk? Non c'è un talk renziano. C'è un talk che è un po'... Ma ecco, no, talk, ma sì, direi... No, io devo dire che i talk vedo quelli della 7, quindi purtroppo, però ho visto qualcosa. Giannini non è renziano, mi sembra, anche no. Se ultimamente... Se, ha fatto un po', è diventato molto prudente, molto prudente. È diventato prudente. Sì, dopo gli attacchi di quel pazzo, di quello sciagurato di Ansaldi, eccetera. Però, perché però Scialdo, pazzo, perché pazzo? Perché, che, fu, ha fatto, che ha fatto Zio Ansaldi? Ha attaccato il sì. Perché, però devo dire. Ma che ne so, Mannoni, la serie, qual è quello più renziano? No, ecco, bravo. Ma. Mannoni è fortemente renziano. Non si sente, perché non si sente stasera, Carlo? Però, mi spiegate perché non si sente? Mi senti? Adesso sì, avvicina bene, stai attaccato, se no non si sente se ti stacchi qui alla radio. No, perché sono le chiamate sotto. Vabbè, ho capito, ma alza la, avvicina un po' il microfono, allora, un casino. Che disastro, che disastro. Mannoni è chiaramente renziano, fortemente renziano. Renziano, una cosa vergognosa, proprio schierata. No, vergognoso, ma è una cosa che non si può guardare, eccetera. Quindi io, ma io sono molto, come posso dirti? Ma invece al consiglio, al CDA, chi è che capisce di TV? Nessuno, oltre a te. Sembra di parlare con i marziani ogni tanto quando parli, o no? Ma cosa ti dico? Sono persone molto, ma Zucca, ci sono le persone molto simpatiche. Simpatici, però non capiscono un cazzo, diciamo. Ma no, ma non è vero. No. Hanno altra competenza. Hanno altre competenze. Vabbè, ho capito, ma della Rai si hanno, parla. Io però traduco ogni tanto perché non si sente. Hanno altre competenze, vabbè, ho capito. Io chiedo scusa perché purtroppo forse il mio telefono che non funziona più, perché ho molte chiamate sotto, quindi vi chiedo scusa, ma purtroppo. Sì, ma non, perché stai parlando con noi e ti dicono e ti chiamano, dire che stai dicendo? Che stai dicendo qua? Ah, allora, sicuro, sicuro. No, no, ti dicevo, no, mi ha dato molto fastidio veramente. Cosa? La cosa di Mentana, quella cosa lì. Sei incazzato nero su Mentana. Ma perché? Ma perché non è possibile? Perché c'è uno che è stato lottizzato, è lui, e come può dare sempre le pagelle? Poi, malgrado questo, poi ha fatto un buon telegiornale. Sì, però se uno lottizzato che è entrato alla Rai lottizzato, è lui, dici. Per favore, ma perché devi dire questo? Ma scusi, io non capisco una cosa. Ha detto semplicemente una roba, che è come funziona, no, la legge. No, però ha detto che anche le, no, ma scusa, abbiamo sempre detto anche noi, la legge come funziona, come è stato eletto. Vabbè, lui non si sente lottizzato dai 5 Stelle. Ma lascia stare lui, il consiglio d'amministrazione come è stato nominato? Lo sanno anche i sassi di via di Piazza Mazzini, come c'era stato un'indicazione dei 5 Stelle. No, un'indicazione, un nome proprio, sì, indicazione, un nome, sì, un nome. Tutti hanno un nome. Devo dire una cosa, 5 Stelle ha nominato una persona che non è dei 5 Stelle. Su questo, ma va bene, ma poteva nominare anche il signor Bubù, ma il fatto stesso che i 5 Stelle, vabbè, legittimamente, ma comunque lui non si sente lottizzato come quelli di però, Forza Italia, cioè, abbiamo discusso per dei mesi. Ma no, ragazzi, ma guarda che incredibile, però aspetta, fai se c'è uno in questo momento che difende tutta, no, vabbè, si non si sente più un cazzo, ragazzi, tutto, su, finito, dai, ciao, tutto finito. Allora dai, Gilberto da Modena. Gilberto, dimmi. Non si sente, Stefano dalla provincia di Monza. Ragazzi, la radio si deve sentire, non mi fate incazzare, eh? Stefano dalla provincia di Monza. Sarà con Freccero. Dai, dimmi. Ma niente, io ho visto che oggi si è sentito molto parlare di Renzi, il suo discorso, l'apertura del valico. Allora io ero lì e posso dare un punto di vista da cittadino, e devo dire che non ho mai fatto così tanta coda come oggi sul valico. Quindi poi siccome parla dell'Italia che riparte, dell'Expo che è stato un successo, non so se per lui avere i cittadini in coda. Vabbè ragazzi, però non è che il governo può evitare le code, eh? Cioè può facilitare, allora, quello, i lavori, no, eccetera. Adesso se si attribuisce al governo pure la responsabilità delle code in autostrada, cioè, no, ci sono dei lavori, però, ci sono dei lavori in Italia che vanno avanti da 50 anni che non si finiscono, per carità. Adesso va bene tutto, va bene tutto, però non code governo ladro, no, code governo ladro, no, non arriviamo a questo, dai. Le code a Natale, ragazzi, le code a Natale, ma che cazzo volete? Andate in macchina nei posti, vi muovete con la macchina, beccatevi il traffico, le code, no, non rompete i coglioni. Insomma, dico che se finiscono opere che sono state progettate, sì, vabbè, 50 scusa, anni amico fa, mio, Stefano, tu ti sei messo in viaggio il 23, ma che cazzo vuoi? Cioè, ma che stracazzo vuoi se ti sei messo in viaggio il 23 con la macchina? Becca di traffico e non rompere i coglioni, dai, su, adesso, cioè, sono un po' indispettito dal fatto che Freccero non si sentiva una mazza e la radio si deve sentire, però, amico mio, ti sei messo in viaggio il 23, il giorno 23, sì, e rompi i coglioni sul valico, sui lavori non fatti e sul governo, e andiamo, dai, su, Agostino, provincia di Catania, dai. Sì, salve, io volevo parlare a mio modesto parere di una cosa interessante. Una cosa interessante, quale? Sì, E l'altro giorno parlavate delle pene da dare riguardo a chi ruba. Io, il mio parere è questo. E che chi ruba, ragazzi, tagliare... Ma, credo, ma che c'avete stasera? Agostino, richiamiamo. Adil Macerata, dai. Pronto, buonasera. Dimmi. Buonasera, mi sente? No, non ti sento. Non ti sento, allora, devo fare. Luca, adesso mi... sì, vai, dai. Ecco, no, dicevo su Osho. Ma scusami, le donne si buttano su questo libro perché non trovano più gli uomini sicuri, sicuri finanziariamente. Oggi va così la situazione, che l'uomo sicuro finanziariamente... Ma non lo so, questa è la tesi, questa è la tesi di Massimo Fini, che le donne si buttano su Osho e su, no, su Guru perché non c'è più l'uomo vero, insomma, io non credo... No, l'uomo vero, l'uomo vero... C'è l'uomo con i soldi, quanti... l'uomo col denaro, l'uomo con allora, denaro. Allora, l'hai vista mai un pezzo di figa che va con un bel grassone... basso 1,40 m, pelato e tutto quanto, ma con un Mercedes, con... Vabbè, ma questi sono luoghi comuni, dai, su, cioè, No, non è luogo comune, che oggi la crisi ha portato questo, ha portato le donne che lavorano e hanno... Allora, diciamo, tu sai, ciao Adil, tu sai, banalità totali, tu sai perché... perché come riuscì a far assolvere Sgarbi quando disse... merda a qualcuno, cioè, con di quale... era in realtà un processo a travaglio, era un processo a travaglio. Canzone di De André: dal diamante non nasce niente, dall'etame nascono i fior. Servì a far assolvere parzialmente Sgarbi in una vicenda processuale con travaglio. La Zanzara. Vergogna che Radio 24 faccia una cosa del genere. Forse la lavatina di capo a te ti farebbe bene. Ormai è tutto degradato, tutto degradato ormai. Mi comunicano, Parenzo, che anche Sgarbi è rimasto intrappolato oggi tra Firenze e Bologna e mi ha detto quel gradasso del premier Renzi che ha inaugurato. Sì, amici miei, no, ma intanto scusa, Sgarbi non si deve, siccome noi abbiamo a cuore la sua vita, sì, la sua assolutamente, salute, assolutamente. Dopo la cosa di ieri, ma non si doveva mettere, deve stare a riposo. Deve stare fermo a casa, non si deve arrabbiare, deve stare lì un po' tranquillo a mangiare un brodino. Cosa va in giro? Dai, ma su. Ma perché deve rimanere deve stare ma lo a mangiare dico per il brodino? Lui. Perché? Perché deve stare, deve curarsi, deve stare tranquillo. Scusa, ha avuto quell'intervento. Vittorio, ma non lui. Vuole stare tranquillo, Vittorio. Perché ma lo noi devi... ci teniamo, ma perché? Vittorio, ma se nostro. Vuole crepare in macchina, crepasse in macchina, dai. Ma no, su. Ho capito, ma adesso doveva a Matera, poi doveva a Bergamo, so, Vittorio, poi Roma, ci sei, Vittorio. La camera, la macchina è confortevole. Io sono salito perché avevo promesso a Pesce, che ha molte più anni. Gaetano Pesce, andare a vedere Palazzo Medici Riccardi. E poi lui compensava anche Nardella che ci aspettava, che non sarei arrivato. A un certo punto dice: che facciamo? Tanto qua sono fermo come un coglione, salgo in macchina. Sarei arrivato sereno se l'unico trauma non fosse stato che questo cazzo di premier ha fatto un discorso mussoliniano sull'apertura finalmente della strada, mai più code. Non ho mai fatto una cosa così in vita mia, mai. Tant'è vero che sono uscito a Barberino, ma la parte nuova dell'autostrada, tra l'altro ho chiuso un bellissimo grill per quello che mi fermavo sempre, è diventata impraticabile. Infatti sono partito, ti dirò, alle 3:15, forse un po' prima, da Ferrara, sì. Ed ero ancora alle 6:00 a Barberino, prima di Barberino, per cui sono tornato indietro, salutato tutti. Vabbè, ma non sarà mica colpa del premier adesso, dai, su. No, però è singolare che questo blocco, per esempio, nella parte tornando indietro, tornando adesso a Padova, traffico non ce n'è. Sì, ho capito. Tutto verso ma Firenze, per forza, ma è normale perché la gente va al sud, ma è normale, ponte. È da 50 anni che è così, è dal dopoguerra in poi che se uno si mette in macchina come un criminale, tu lo fai per lavoro naturalmente, c'è un sacco di gente che è in ferie e bisognerebbe eliminare questa cosa. Dove vai? Concordo su tutto. Uno deve si mette in marcia, tu lo devi fare per forza perché vai a degli impegni, perché se non ti muovi non guadagni, sì. come altre persone, come se io non sto fermo, siamo esattamente agli opposti di te. Agli opposti, tu se non ti muovi non guadagni. guadagni. Io, se, sto, sei, io sei... se mi muovo non guadagno. Questo è il punto. È paradossale, sì, la cosa. Saremmo una coppia perfetta, perché non le coppie perfette sono quelle che non si vedono mai. Diciamo la verità. Come te e Sabrina, sì, non vedete mai, dunque state insieme. La cosa migliore, tanti anni fa, c'era Giovanna Benfora, una poetessa che sicuramente Parenzo conosce, ebrea, no? Di Ferrara, sì, traduce l'Eneide. C'era sposata con il ministro Orlando, non quello di questo di adesso, ma tempo cristiano. Lei aveva i turni della propria vita sempre così avanzati, che a un certo punto stava sveglia fino alle 8 del mattino, sì, e andava a dormire quando il marito si alzava. Avevano un letto a una sola piazza, perché quando lui arrivava lei era sveglia e quando lei andava a dormire lui se ne andava. Per cui hanno lavorato tutta la vita su una sola piazza. Ma dove vai adesso, ad esempio? Dove stai andando adesso? Adesso vado a vedere un bravissimo mercante d'arte che si chiama Tommaso Peruta, che è giovane, giovanissimo, che ha un grande gusto, una grande sensibilità, e trova spesso delle cose difficili. Scusami una cosa, però Vittorio, tu mi sembra di capire che le prescrizioni dei medici, i consigli, sì, che ti hanno dato i medici, no, col cazzo che li stai seguendo. Tu mi sembri più intelligente di Parenzo, perché Parenzo dice ormai delle cose sagge anche lui. Io non so come sia la vostra intelligenza, ma ti posso dire questo, che si attribuisce ai medici un pensiero che spesso è persone che... Io sono circondato da persone che mi dicono di non muovere. Allora cosa ho fatto? Ho chiamato il medico, che si chiama Carlo Cappello. E che ne so? Cappello, certo. Naturalmente puoi muovere, puoi fare tutto quello che volevi fare come prima. Se il medico dice una cosa, sì, colui che interpreta il pensiero, che una volta è Parenzo, una volta è mia sorella, sì, sorella, una volta sei tu, una volta... E chi ti vuole bene? Non dico, no, è un po' quello che è successo a Berlusconi, che, sì, che in realtà ma perché ci vogliamo bene, no, solo per questo. Comunque, se Cappello ha detto che lui può andare, che vada, questo io volevo solo prescrizione, che è quella che mi dispiace di più, che io fino a quando non sarò morto dovrò prendere tutti i giorni due o tre pillole. Quello mi rompe il cazzo come... Sì, quello una cosa pazzesca, questo tutti. Penso che sia veramente un incubo, attaccarsi alla pillola come un corno stronzo mi fa girare i coglioni. Invece sul movimento, visto che il cuore ha detto ma hai le coronarie nuove, puoi andare dove vuoi, cioè, per la vita, contrariamente a quello che dice Parenzo, per affetto, il medico dice non hai limitazioni, non ti devi affaticare più di tanto, ma non è che andare a fare un'ora e mezza di macchina è interdetto al malato come se fosse... Beh, meglio le, meglio le pillole di Dudu però. Invece sulle pillole io darei fermo un mese per non prendere le pillole per tutta la vita. Lo so. Le pillole tutta la vita, meglio le pillole... Sulle pillole di prenderle a mezzanotte in punto... Mamma mia, ma vaffanculo, hai capito? Girare con questi tacchini, barattolini di merda, di pillole di merda. E fatemi un intervento in cui aprite le coronarie, non passa tutto il sangue per tutta la vita, no? Si coagula il sangue. Su quello sono stati. Cioè, scusami, se ti dicessero, guarda, parla bene di Alfano, però non devi quindi prendere più le pillole. Diventa l'amico di Alfano. Diventa Alfaniano. Anche Bondi è stato Alfaniano. Mamma mia, ragazzi, Bondi è passato con Verdini, no, con Alfano. Verdini, normale. Quindi è un po' diverso. Verdini è più intelligente, sì, sì, di Alfano, diciamo la verità. Almeno questo bisogna. C'è un'intelligenza un po' criminosa, se vogliamo, però intelligenza criminosa. Dipende di Verdini, lo scafista, no? Quello, sì, che il solito scafista. Sì, io non riesco a capire una cosa. Perché Berlusconi, che non riesce a trovare un candidato a Milano, io lo dico anche contro l'ipotesi fantastica e realistica assolutamente di una lista Zanzara Sgarbi a Milano, perché perché Berlusconi non c'ha nessuno? Perché non candida te a Milano? Ma non capisco. Io lo dico da sempre, io non ho nessuna intenzione di fare il sindaco per orgoglio, però mi rompe i coglioni, sì, che qualunque coglione sia preferito a me da qualunque parte. Cioè dico Sala, che è mio amico anche. Sala. Ma che cazzo c'entra con la sinistra? L'ha montato lì la Moratti. Sì. È un uomo di, come dire, rigore amministrativo. Sì, dice di essere di sinistra adesso. Ma dice che è diventato di sinistra. Ma voglio dire, ma che modello culturale ha mai proposto? Cioè, quello è un city manager. Cioè, il suo Expo, e lo sa bene Parenzo, rispetto al mio, era la prova di una pochezza di sensibilità, sì, che lui ha condiviso con la Bracco, con gli altri. Noi abbiamo fatto, io l'ho fatto bene per il Corriere Parenzo, una testimonianza con il mio Expo. Cioè tu dici in giro ci sono dei tali coglioni, dei tesori veri, ma lui ha detto, questo lo sappiamo, però lui sta dicendo una cosa interessante. Lui sta dicendo, io vedo candidati, sì, degli enormi coglioni, giusto? Beh, Vittorio, ti voglio dire, ma non ne ho di coglioni, magari persone anche... Ma perché? Cioè, ma questa Balzani, poi una volta ti viene in mente Sallusti, poi ti viene in mente... Ma Del Debbio, dico Del Debbio, bravo ragazzo, ma che cazzo ha? Ma poi io, visto la mia malattia, non solo sono amato, sono amatissimo, sarò un rompicoglioni, ma un sindaco deve essere uno un po' buono, tenero, delicato, sensibile, ma che cazzo di sindaco sarà? Ci vuole uno che abbia quattro idee in testa, io e te... quattro idee su Milano. Sì, è vero, ce l'abbiamo. Sì, ce l'abbiamo. Sono le cose più importanti. Mi offendo. Allora, sto cercando da 20 giorni, da un mese. Ho parlato con Mannheim, con la Ghisleri. Facciano un sondaggio, mi mettano lì in sondaggio, anche a Bologna se vogliono, e vedono se io arrivo terzo, quarto o primo, come io sono sicuro di arrivare. Provino, no? Una volta che hanno provato, dicono: non lo vogliamo lo stesso. Ma l'idea è che uno si abbassa a cazzo, nonostante che abbia fatto l'assessore come nessuno e l'Expo come nessuno. Se vuoi confrontare quello di Lampello, che è mio amico, che ha speso 23 milioni di euro per il pareggione zero, che corrisponde a quello che dice, cioè non c'era niente, sì, rispetto a quello che ha visto, no, per tutta l'arte italiana, occorrerà avere coraggio, forza, energia. No, ma è vero, è vero, è vero, è vero. Quindi no, ma mi sovrascrivo. Il pareggione zero era bello, però, dai, bellina, bella idea. Vabbè, ragazzi, no, erano 23 allestimento. Milioni per niente. Dimmi cosa ti ricordi di quel padiglione? Quattro film. No, mi ricordo quell'ingresso straordinario, quella biblioteca che mi ricordava, però, il nome, scusa, di una cosa. È Bartone. Scusa, però Vittorio, uno giustamente mi fanno osservare. Un sindaco che dice che non bisogna pagare le tasse perché abbiamo dei coglioni, come, e poi ti fanno un culo così. No, che non bisogna pagare le tasse per fare la nuova serie della regione, al Pirellone. Se un sindaco come me impedisce di fare, non puoi buttare i soldi in quella quantità di merda architettonica inutile. Sì, ho capito, però Vittorio, uno non può fare il pagamento delle tasse alla carte. Io decido che mi sta sul cazzo quello, perché non voglio quello, non pago le tasse, è una follia, sì. Non può essere, no, così. No, io dico, quello che abbiamo visto di spreco rispetto alle tasse pagate da noi. Ah, quello non c'è dubbio. Quello non c'è dubbio. Hai le scuole che crollano e hai il palazzo. Cioè, gli italiani avrebbero gli italiani avrebbero tutto il diritto di evadere le tasse per gli sprechi che ci sono stati. Assolutamente, oppure tu metti in Italia, se io pago le tasse in una città, dovrebbero essere cittadine, per questi 10 obiettivi li condivido e li firmo, ma non pago le tasse perché mi facciano il palazzo Lombardia, perché mi spendano i soldi. Lo so, però purtroppo un altro metodo non si è trovato. Qualcuno deve dire, avete rotto il cazzo, le spese vanno. Io ho scoperto a casa mia che abbiamo, durante la malattia di mia madre, prima, fatto un debito di 8.000 euro di giornali. Sai cosa ho fatto? 8.000 euro di giornali? Di giornali. Vabbè, nel corso degli anni, sì, con la nostra povera edicola giornalaia, ho detto basta, davanti si compra solo il Corriere e il giornale. Giornale quando scrivo io, tra domenica, punto. E bisogna a mio padre. Ma scusa, perché non avete pagato 8.000 euro alla povera giornalaia? Perché andavano i ragazzi a prendere i giornali, lasciavano sul conto. Questo cambia, ho saldato il conto adesso, ma mi pare che devo saldare 8.000 euro di giornali. Praticamente i giornali. E tu pensi quante spese ci saranno, quante spese inutili, quante stronzate, finanziamenti dati a merde umane, una quantità di stupidaggini. No, ma questo dei giornali è curioso. Il simbolo di Milano è la meravigliosa Pietà Rondanini, la più bella scultura che c'è a Milano. Hanno speso 3 milioni e mezzo per metterla su un formaggio, per toglierla dove stava, dove era perfetta. Soldi buttati via. Ma scusa, ma meglio, io dico però, meglio, per tornare al discorso delle pillole, no? Meglio le pillole di Dudù che stare con Dudù, scusami, o no? O non è una tortura? Dudù, sì, il cane è meglio lasciarlo fuori dai coglioni, perché poi vengono lì. E poi ho un grande amore per gli animali, ma non mi piace che mi becchino. Tu pensi, in un ascensore c'è una signorina che vede un cane che lecca e si mette a ridere, lo lecchi tutti nel luce per stoppi. Non ho capito, che tu sei peggio di un cane. Non ho capito. Cioè, che cazzo hanno fatto gli uomini? Sì, questo... Ah, carino, carino questo cane, lo tocchi, lo lecchi, ti sporchi le mani con i pidocchi del cane, perché se stronzate, cioè, il mondo degli animali, anche viene a casa mia, però la puzza dei gatti e la cosa dei cani, uno deve per forza, cioè un mondo che è bello vedere, ma non devo andare a letto col cane, farmi leccare dal cane i suoi peli pidocchiosi. Poi dici, se lo fai tu, se lo fai tu, se lo fai tu sulla ti denuncia. Lorenzo lecca una ragazzina, ma scusone, la leccia un cane, ma che carino questo cane, che ha fatto questo cane, la lingua è uguale, di lingua sempre si tratta, no? So che sono un vostro maestro, questo qua la userei. Beh, ma la lecca, sì, come lo so, no, questo diciamo è il regalo di Natale più bello. Se a me una ragazza mi tocca il culo in tram, dico continui. Tu tocchi il culo a una ragazza, ti denuncia per stonchi, ma sarà anche ho capito, vabbè, ha ragione Vittorio, una rottura di cazzo, un mondo di gente che ha paura della sua ombra e che si inventa un femminicidio. Se una femmina uccide una femmina, cos'è? Mamma. No, questo è vero, non esiste. Omicidio. Non esiste, il femminicidio è una cosa ridicola. Se si chiama omicidio aggravato, se c'è un aggravante, no? No, ma la cosa del. Tu è vero, se tu vai in un autobus o comunque in strada, uno ti tocca il culo. Sì. Se una femmina... di mania, no, ma dai. Se una femmina mi tocca il culo, io dico, beh, ma dipende, no. Se te lo tocca un. Sì, o mi eccito, chi se ne frega, o mi eccito, chi se ne frega. Sì. È bellissimo perché sto vedendo, per tenermi in forma, gli amici miei, cioè a un certo punto Loiret, per liberarsi di una donna, si monta una gobbaccia e lei naturalmente lo saluta in maniera molto imbarazzata per non vederlo mai più. Poi lui va in tram, c'è una ragazza studiosa con gli occhialini, con la faccina molto corretta, che gli sta dietro. Lui finge che l'abbia toccato e si indigna. Ha toccato la gobba! Gli ha toccato la gobba per avere fortuna! Si vergogna, signorina! Sembra un film di Buñuel perché si ribalta il rapporto per cui lui, gobbo, accusa la ragazza secchiona. Bellissimo! Cioè, bisogna vivere così, vivere come gli amici miei. Memorabile, sì. Conte Mascetti, un eroe. Sì. C'è la psicologia di Berlusconi, in cui ho sempre valutato che era inutile criticarlo. Ma ti pare che Bondi... Però una volta Ti pare che Bondi? Non aveva capito che era come il Conte Mascetti. E adesso si lamenta che l'ha tradito. Ha tradito che? Dovevi capire, cioè non puoi aspettare... Senti, ma la coppia Bondi... No, una volta la coppia Bondi Sassaroli, Come la giudichi la coppia Bondi-Repetti? No, mi fanno tenerezza, sono il segno della fine politica di Berlusconi. Quando se ne vanno anche loro due, Berlusconi non c'è più. Questo non toglie che il fatto umano, cioè, pensare che uno abbia creduto che Berlusconi era un faro assoluto della vita, ma dovete trovare il pezzo di Antonione, che fu un capo coordinatore, uno friulano, sul giornale, sì, era lui che era proprio il segretario del partito, intervistato dal giornale, diceva lei che diceva, io sono stato repubblicano, democristiano, radicale, poi sono entrato nel porto felice di Porto Italia. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando ho mal di testa penso a Berlusconi e mi passa. Quando mia sorella, mia moglie ha raffreddore, penso a Berlusconi e le passa. Quando... E una cosa non si può leggere, cioè una visione taumaturgica di uno con una zucca completamente vuota, che poi naturalmente se n'è andato. Tutto così, cioè è gente che non ha una stabilità emotiva e quindi reagisce su un piano così, vede uno forte e si innamora di questo forte. Certo, Berlusconi è molto simpatico, ma giusto, va bene perché venga in giro con noi a fare amici miei. Sì. Va bene per tutto il resto, che cos'è? E questo qui come fa a fare la vittima di che cosa, se non di una sua interpretazione sbagliata dei fatti? Sì, sì, sì. Senti, ma tu i vegani come li consideri, i vegani? I vegani mi sembrano, come dire, persone che hanno delle illusioni ottiche. Credono che gli animali non debbano essere mangiati. Gli animali possono essere mangiati come sono sempre stati mangiati. Poi improvvisamente cambia il mondo, non si mangia più gli animali. Non so, e allora cosa pensano delle zanzare i vegani? Perché Dio ha fatto le zanzare? Sì, perché sì, vengono uccise. Sono puri animali. Il maiale è fatto apposta perché si dia tutta la sua bontà. Non capisco che vorremmo rinunciare. Cosa c'è meglio della carne di maiale? No, loro dicono che siamo uguali agli animali, che siamo simili agli animali. Certo che... Non ci sono differenze, vabbè, dai, sono stronzate. Vittorio, sei in grande forma, ciao, ti abbraccio, ciao. Cruciani, sei immorale. La zanzara. Allora, uno mi scrive: Osho ti piacerebbe moltissimo, nei suoi scritti ha demolito ogni religione e ha affermato che ogni guru va ucciso, lui primo di tutti, ognuno deve essere libero di farsi la propria religione. Osho è stato strumentalizzato per questioni di marketing, tutti i fanatici di Osho sono fuori strada, non l'hanno capito. Infatti io polemizzo con i fanatici di Osho, Franco da Milano, vai, Franco. Ciao Cruciani. Franco, dimmi. Mi senti? Sì, ti sento, dimmi. No, stavo dicendo al centralino che tu sei molto più vicino ad Osho di quanto credi. Perché spiegami, sono interessato a questa cosa qua. Io sai che cos'è che rifiuto? Rifiuto ovviamente il culto della personalità, no? Però uno che mi dice Osho, una guida pazzesca, Osho, io non credo nei santoni, non credo nei guru, capito? Questo. Ma guarda, nemmeno io, solo che però sono un adepto di Osho proprio per questo motivo. Adepto, già il fatto che uno è adepto, dai, ma come si può essere? Sono simpatizzante, chiamano come vuoi. Comunque, perché? Dimmi perché sono molto vicino a lui, secondo te. Perché prima di tutto ha delle idee molto liberali su quello che è l'amore, prima di tutto, e vedo che ti interessa tantissimo. Per esempio, tu che sei un adepto, dimmi una cosa. Non è assolutamente per l'attaccamento, per il superamento dell'attaccamento. Mi piace, allora, questa cosa mi piace. Poi? È sulla sessualità libera, però consapevole, che non è poco. È assolutamente contro tutte le religioni, se non del proprio essere, della propria consapevolezza. Sì. Ha ha inventato delle meditazioni dinamiche che sono fantastiche. Le meditazioni dinamiche che vuol dire? Meditazioni dinamiche sono meditazioni non quelle classiche dove ti siedi e stai lì con le manine incrociate e le gambe incrociate, che per noi occidentali sono veramente... Ma io già la parola meditazione non la sopporto. Le prime due cose mi vanno bene, l'attaccamento, cioè va bene, allora non senza, ti parlo di meditazione, i rapporti senza attaccamento, la liberalità, la sessualità libera e consapevole, vabbè, tutto bene. Guarda, però le meditazioni dinamiche non gliela faccio. Dove c'è molta danza e dove molto senti il tuo corpo, perché tutto parte da lì, cioè danza, il corpo, sto segnando, danza, corpo, esatto. poi dimmi un'altra cosa, al di là sesso libero mi hai detto, no gelosie, no attaccamenti, sesso libero, no sesso consapevole. Vabbè, ma quella è una sesso come che vuol dire? Che vuol dire sesso, allora, consapevole? Abolizione di tutte le religioni, perché sono veramente il cancro. Abolizione delle religioni, questo è ottimo, signor Osho. Ma se uno vuole credere, io sono da questo punto di vista, Osho dice una cosa giusta. Ma quale Osho? Poi? Ma, e poi, no, adesso consiglio a Parenzo di leggersi un libro, perché francamente darei dei giudizi così. Ma guarda, durante le vacanze mi leggerò un libro su Osho. Guarda, io guarda, di meglio da leggere, di consigliami di Osho, un libro, diciamo. Franco, consigliami un libro su Osho, dai, per una sorta di compendio, che ne so, un qualcosa di fondamentale su Osho, che devo leggere? Guarda, ti consiglierei il Tantra, che è un po' la Bibbia. Il Tantra. Si capisce l'argomento. Per Tantra di Osho. Perché ti fa bene sicuramente. Tantra di Osho. Vabbè, bene, ma hai detto due o tre cose però. Le meditazioni dinamiche, la sessualità libera e consapevole e no alla gelosia, no al possesso. Esatto, è un nuovo tipo, molto probabilmente alle donne piace molto questo, perché? È anche una visione del rapporto, ti dicevo, molto libera, che va veramente... Beh, alle donne in teoria non è che piace molto questa roba, le donne sono molto più per il possesso, però, per la gelosia. Sì, però sempre calandosi in un maschile consapevole e bruciando veramente tutti quegli stereotipi maschili che abbiamo, che la società ci dà. Ecco. Ragazzi, abbiamo scatenato l'inferno su Osho, sul signor Osho. Ciao. Qui senza te ho fatto in aria i miei cioè. Salverò, almeno un po' ci proverò, ti schiaccerò, alle tue notti mi darò, completerò, ci riuscirò, ma che ne so, tu senza me rispogli a terra i miei sé, ti sfascerò, ti straccerò, ti sfinirò. Ragazzi, non potevamo finire l'anno senza il mio amico Cristiano Malgioglio. Ma come stai, amore della mia vita? Buonasera a tutti. Ma come mai questa canzone che io detesto? Non lo so, non sapevo. Il mio nuovo disco che si chiama Iconic, che è bellissimo, te lo porterò personalmente con l'anno nuovo. Come si chiama, scusa? Iconic. Perché Iconic. Odi questa canzone, scusa? Perché la detesti? Perché non capisco, perché mi devono mi posto addosso questo gelato al cioccolato e questo sbucciami. Quando io ho scritto penso delle cose bellissime nella mia vita. Vabbè, ma uno non deve rinnegare quello che ha fatto. Rinnego, ma rompete le palle in continuazione con questa canzone. Ovunque vado sempre sto sbucciami, come se fosse la mia carta d'identità. Basta sbucciami, gelato al cioccolato, dai, su. Senti, posso fare gli auguri a tutti i tuoi ascoltatori, che sono tantissimi, in modo particolare i tassisti che vi ascoltano. Bene, io quando prendo il taxi vi ascolto sempre, ecco, perché bravo. È il momento migliore. Parla con i tassisti che so che ti amano, amano anche la tua frociaggine, Cristiano. Purtroppo no, ma quelle no, perché sono molto discreti. Sono delle persone per bene, mio caro. Beh, quello sicuro. E mando un abbraccio a tutti i tassisti, mi fanno sempre pagare il doppio, però va bene. Come il doppio? Come il doppio? Scusa. Perché lascio sempre la mancia? Lasci tu la mancia. Ma tu non lo fai neanche, amore. Se il taxi ti costa 9,80 tu vuoi 20 centesimi indietro, no. Mio caro. Vabbè, bisogna sempre dare una piccola mancia, il resto bisogna sempre lasciarlo. Scusa, Cristiano, dimmi. Amico mio, quanto guadagni tu all'anno? Quanti soldi guadagni? Facciamo. Ma se io lo chiedessi a te non sarebbe bello lo stesso? Ma io te lo dico, dimmi. Come no? Vabbè, però dimmelo tu prima, scusa. No, è una cosa mia privata. Ma cosa vuol dire cosa guadagno? Lavoro, pago le tasse, certo, e sono molto felice, pago più tasse che altro in continuazione. Ricevi, ma non so, prende 200.000 euro l'anno, ne deve pagare 150.000. No, 150, però, no, 100 se ne va bene, ma sono sempre tanti soldi. Tanti, comunque sono molto felice di essere uno dei tanti che paga le tasse. Io quando pago le tasse sono molto happy, sono molto felice. Ah, sei felice a pagare le tasse? Mie... No, sono sì, incazzato. Sono contento. No, ma sono molto felice perché sono dei miei colleghi che guadagnano un sacco di soldi e poi non pagano le tasse, quelle sono orribili. Anzi, l'ho detto ai miei colleghi, io non ho colleghi, tesoro. Posso avere soltanto te come collega. No, ma tu sei unico, ma non è nemmeno me, tu sei Cristiano Malgioglio, ragazzi. Ma Parenzo, quando l'hai incontrato in treno? Ma Parenzo è meraviglioso, lo amo, è delizioso. Guarda, è stupendo. Mi ha offerto visti anche in da bene, pensa. Sì, adesso questo non è strano, è offerto da bene, sembra che... No, ti giuro, ma io non so se ti ho offerto dello champagne, no, dell'acqua. No, non è vero, no, ma cosa c'è? No, ma lo champagne, quello te lo passano, ti passano uno sfumantino. Ma lui era seduto lì, stava mangiando, penso, dei gnocchi. Con la figlia. Sì, è un grande padre. Grandissimo. La quale figlia ha avuto, sì. A un certo punto la figlia ha chiesto, tu non lo sai questo, ha chiesto. No, perché lui mi ha detto, ciao amore, appena mi ha visto, mia figlia giustamente ha 8 anni, dice, papà, perché ti chiama amore? Dico, lui era Malgioglia, un amico di... No, ma allora... E poi mi ha detto, ma perché continuava a dire io sono la zia Malgioglia? Mia zia non si chiama Malgioglia. Ma io ho detto, sai, lui si chiama la zia perché si fa chiamare la zia. Scusa, io però voglio sapere una cosa definitiva da Cristiano Malgioglio. Mia figlia ha 9 anni, sulla separazione, dice, ciao, aspetta, amore, sulla separazione Belen Rodriguez Stefano De Mattia. Ti prego, una cosa definitiva. No, senti, siccome poi se io ti dico qualcosa... Ma tu mi devi dire qualcosa, sennò che cazzo viene a fare? A me non me ne frega un cacchio di niente. Un cazzo, contento, anche di niente. No, quel linguaggio non lo so usare. Comunque, beh... Però quello lo sai usare. Cosa, ma quello tu, lo amore, sai... Ma, No, lasciami parlare, poi dimmi tutto quello che va. A me che cosa me ne può fregare della separazione di Belen? Me ne può fregare qualcosa? Niente. A me tanti pure. Problemi che abbiamo nel mondo, devo pensare alla divisione di questa. Ma chi se ne frega? Ma quello è d'accordo, tutti quanti chi se ne frega, tutti. Infatti, beh, se si fosse diviso il principe Carlo con Camilla, magari ero molto curioso. Beh, sì, certo, però... questo nel senso che sono due che di cui non frega niente. Beh, però ma io sono molto felice, siccome adesso parto, me ne vado in Irlanda stasera. Che beh, fare in Irlanda. Così finalmente adesso avrà tutte le copertine. Ma la signora Belen. Prego. Ma fa freddo in Irlanda? C'è qualcuno che mi riscalda, tesoro, no? È un viaggio d'amore! È un viaggio d'amore! Sempre, dura da 11 anni purtroppo, ma è un grande viaggio. Ma con chi stai da 11 anni? Ma te ne frega con chi stai? Hai un amante in Irlanda? Sì, una grande passione irlandese. Una grande passione, ma com'è con i capelli? Ma che te ne frega com'è, con i capelli lunghi, sei contento? Ecco. Mamma mia, che invidia, guarda, che invidia. Ma tu sei l'amore della mia vita, lo sai? Lo so, però purtroppo... devo diventare, devo passare all'altra sponda. Devo passare... Ma non ti manca mio, troppo, il viaggio sai. È breve, tesoro. Il passaggio è breve, dici? Senti, ma ho saputo che sei incazzato per quella storia di Scialpi e di Carlo Conti, che ha detto che è stato bocciato perché è gay. No, ti spiego subito. Beh. Io ho letto, naturalmente con tanti gay che Carlo Conti ha ospitato nei suoi programmi, io sono stato il primo per 2 anni, pensa, per quando ho fatto i raccomandati con lui. Sì, no, perché a quanto pare non avevo una canzone molto bella, perché poi mi sono informato. Ma anche tu ti eri candidato, anche tu ti eri candidato, no? Per Sanremo? No, grazie, io l'ho vinto una sola volta. Non... Gli Oscar si vincono una sola volta nella vita, tesoro. Non me ne frega niente di Sanremo. Ma secondo te vado a sapere che cosa Sanremo? E che so, no, c'è gente che torna. Non ho questi grandi desideri, non l'ho mai avuto questo grande desiderio, ti giuro, veramente, mai. Senti, tu che cosa faresti a un prete pedofilo? Sono curioso di sapere, che cosa faresti? Mi fai queste domande così imbarazzanti? No, anche imbarazzami, mica che c'entri tu qualcosa, no? Perché in casa. Sicuramente non andrei mai a confessarmi da lui questo no, ma perché secondo te vanno, cioè i pedofili per esempio, no? Le persone pedofili, cosa bisogna fare? Non abbiamo parlato, te lo chiedo. Ma perché mi metti in bocca certe cose terribili? Voglio sapere che un padre... Un prete pedofilo mi fa completamente schifo, mi fa completamente vomitare, tutti in generale, non soltanto certo. Perché è una cosa orribile tutto questo, perciò non so che no, ma che ne so, un pedofilo lo castreresti, faresti la castrazione per i pedofili, no? Non lo so, lo farei curare, Castrare è una castrazione chimica. Castrazione chimica. Non lo so, non, preferisco non commentare perché magari posso anche sbagliare. Non, Senti, spiegami una cosa, Cristiano, ma l'anno prossimo che fai? Ma è grandi Guarda, l'anno prossimo che ritorno con Chiamprezzi, con ogni probabilità. C'è questo film che devo fare con questo regista spagnolo che inizio a febbraio. Un film. Una produzione, sì. E che fai? Attore? Faccio questo marito gay. Il marito gay, mamma mia, proprio la parte che preferisci. Tu sei contro un matrimonio, Un marito gay che vive con una lesbica, che hanno un figlio nano e non ti posso dire. No, ma non ci posso credere, dai. Cioè, tu fai il marito gay che vive con una lesbica, hanno un figlio nano. Ma che vuol dire? Sì. Amore mio, cioè marito omosessuale perché, un omosessuale può andare anche con una donna, qual è il problema? No, ma sì, ma tu, no? Tu sei stato con una donna qualche volta? Ma che te ne frega, che cosa vuoi fare, la stessa cosa del bacio di Belen? Non te ne frega niente, non sei te ne stato mai. Con... Ma che non mai. Te ne frega mai, posso dire che sono stato anche con te, sei contento? No, ecco. Quello no. Beh, questa sarebbe una notizia però. Quello è bomba, Malgioglio, Fiduce, Cruciani, bellissimo sarebbe. Prima poi ci dobbiamo dare un bacio in bocca, io vorrei baciare con la bocca Simon Malgioglio, lo sai, un bel bacio in bocca. Generalmente bacio soltanto una sola persona perché ho giurato eterno amore. A chi? A questo dell'Irlanda? Mamma mia, che ambiente, ragazzi. È giurato troppo... eterno amore a uno dell'Irlanda. Ma ci stanno tanti maschi in Italia. Ma sei andato in Irlanda? Ma che sei geloso? Il cuore batte così all'improvviso, perché... eccetera. Sai. Comunque, guarda, voglio farti una domanda molto importante perché è stata una questione. Non mi fare delle domande scomode, se no ti chiudi il telefono. Io faccio sempre domande scomode. Allora, ecco. Chi va con un transessuale, secondo te? Chi va con un trans? Questo l'ha detto Luxuria l'altra volta. Abbiamo fatto tante puntate su questo tema, interessantissimo. Siccome tanti uomini vanno con i transessuali, no? Allora, chi va con un transessuale, secondo te, è gay? Questa è la domanda, oppure semplicemente è curioso, vuole provare un'esperienza nuova, eccetera, eccetera. Forse, beh, sicuramente la terza domanda, è curioso. Perché cioè non è gay, tu dici, non è gay. No, penso che non sia gay, figurati, se uno va con un transessuale non è gay, perché deve essere gay? È curioso, poi se le piace magari se la può sposare, no? Abbandonare la moglie per andare con un transessuale. ciao bene, auguri a ciao. Tutti, spero di vedervi presto. Baci in bocca per Cristiano Mangione. Un bacio a tutte e due. Ciao. Ottima trasmissione, sempre la migliore. La Zanzara. Spero e mi auguro che tu riesca a vergognarti dopo esserti riascoltato più volte dopo aver detto quelle cose. Fai così, guarda, io ti consiglio una cosa, carica il podcast, ascoltati e sentirai quanto sei noioso. L'ascoltatore ha toccato proprio un punto nevralgico, direi, nevralgico, sì. Beh, va legalizzata, però comunque, anche qui in zona a Roma, il fumo buono gira! Buon anno, potresti mettertelo di fianco il bidet. Il bidet è sempre di fianco al cesso. Ma come fa la gente a indignarsi per i discorsi sul bidet? Ma questi non se lo puliscono il culo? Hai capito, Parenzo, il difensore dei popoli, degli oppressi, degli indifesi? E poi vai in giro con la camicia che non si stira da 500 euro. Cruciani, anch'io me lo lavo come te il culo, proprio come te. Mani e via. Se esistessero solo bidet e niente carta igienica, per me non sarebbe un problema. Allora ragazzi, la questione di Osho qui impazza, il signor Osho, Parenzo, perché mi scrivono, se tu leggessi i discorsi di Osho, Osho non ha mai scritto nulla. No, stavo leggendo proprio quello, guarda, stavo leggendo gli aforismi che scopriresti di avere tante cose in comune con il suo pensiero e il suo approccio alla vita. Può darsi. Andrea, provincia di Vicenza. Sentiamo Andrea dalla provincia di Vicenza e concludiamo l'anno con Osho, amico mio Osho. Sai che io invece chiamerei per fare gli auguri Capanna? No, Mario Capanna. Chiamerei Capanna. No, dai, Andrea. Il Natale lo abbiamo pronto. Il Natale? Sono... Il Natale? Guarda, negli anni 60, caro Cruciani di Radio 24, noi prendevamo l'albero di Natale, sì, lo scaraventavamo fuori dalla facoltà di architettura a Roma e mandavamo tutti quanto a fuoco. Ma perché? Perché erano dei reazionari di merda che prendevamo a calci nel sedere, scappavano come conigli. Poi prendevamo quell'odioso presepe che era un simbolo piccolo borghese, di voi piccoli borghesi, e lo facevamo a pezzettini. Ma poveracci! Se per caso arrivava un prete che ci diceva no, il presepe va messo nei luoghi pubblici, lo prendevamo a sassate. Questa era la democrazia. Stai zitto, perché questo era il nostro modo catanga di imporre la democrazia. È stata un'esperienza straordinaria. Infatti ho scritto un libro che si chiama Formidabili quegli anni. Ma ho capito, in cui se uno dissentiva con il mio pensiero veniva preso a randellate per strada e inseguito per chilometri. Non era la democrazia. Scappavano come conigli. Scappavano. Ma non era come la democrazia. Persone come Gilletti. Sarebbe stato messo a ferro e fuoco quello studio negli anni 60. Formidabili quegli anni, lo avremmo occupato quel saxa rubra lì, tra l'altro nella parola rubra c'è scritto anche, vuol dire che qualcuno ha rubato, lo avremmo occupato per 45 giorni. Allora, Andrea dalla provincia di Vicenza, questo era il... Ma chiamiamolo Capannone, scusa. Ma anche, abbiamo appena sentito, Mario Andrea dalla provincia di Vicenza, vai, il Natale di Capanna. Pronto? Vai. Dimmi. Pronto? Dimmi. Ah, niente, cosa devo dire? A parte che Osho è diventata una parodia per qualsiasi cosa, no? No, Osho ha Wagbar, direi. È come la zanzara. Cioè, Osho ha la stessa filosofia della zanzara, tu dici? No, cioè, no. Adesso, tutti quelli che ti telefonano, ti scrivono che te e Osho siete uguali, cioè uguali, simili. C'è un fondo di verità, perché è vero, siete due passi. Io non sono basso, sono alto 1,80 m, amico mio, 1,79 m. Cioè, no, basso. Non ho detto basso, ho detto pazzo. Ah, pazzo. Vabbè. Sì. Cioè, pazzo, insomma, un po' che ragionate con la vostra testa, insomma, senza andare con pazzo e uno che ragiona con la sua testa sono due cose un po' diverse. Comunque va bene lo stesso. Vabbè, Andrea, dimmi, tu sei un seguace di Osho pure te? Sì, sono. Ma dimmi un motivo, una cosa che ha detto che ti colpisce. Una, dimmela. No, ma io leggevo delle cose così, ma me le sono scordate. Sono cose che dette così non fanno neanche tanto ridere. Cazzo sei seguace allora, se non mi sai dire una cosa che ti piace di Osho? Il fatto di andare bene così come uno è, cioè io vado bene così come sono, per dire, a me non me l'ha mai detto nessuno. Ecco, cioè per me è stata la cosa più importante. Ma scusami Andrea, però abbi pazienza, adesso mi fate incazzare. Perché se mi parlano tutte le gnocchi che ci sono poi da lui. Perché cioè te devi considerare lui, è morto questo qua però, amico sì, mio. Sì, vabbè, ma nei suoi centri così te devi nei suoi centri è pieno di gnocca, dice, è pieno di gnocca. La meditazione ci vanno soltanto le donne. Vabbè, ma ho capito, ma adesso non è che una meditazione ci vanno solo le donne, io lo capisco, sì, che uno vada. E d'accordo, a te ti piace la gnocca. Ma te devi provare ad andare a vedere questi posti qua. No, pieno di gnocche. Ma questo è un motivo abbastanza buono per essere un seguace di Osho, me ne stai dicendo alcuni. Io boh. Ma sì, scusa, ma vabbè, questo l'ho capito, però Andrea. Questo è delle parti di Cosmo, no? Direi. Sì, siamo assolutamente a questo è delle parti di Bucciero, questo qui, di Riccardo Bucciero. Sì, è romagnolo, sì, anche se in provincia di Vicenza. Però Andrea, sì, scusa. Ma perché si sono in trasferta, comunque sì, è vero. Come il nostro Bucciero. Sono romagnolo tutta la vita, sì. Sì, però Andrea, io dico una cosa. Dimmi una cosa che ti colpisce di Osho. Una di contenuto, un la contenuto. Barba. Vabbè, no, dai, su, Andrea. Oltre alle donne che frequentano i centri di meditazione di Osho. Un contenuto. Allora, adesso... Per esempio, cioè, non lo sai nemmeno. Lo so. Cioè, quando dicono te e Osho siete uguali o siete vicini, c'è una grossissima differenza, perché la pensate quasi nello stesso modo, però lui ha una visione molto più ampia. Cioè, te sei ancora lì che parli mai il coniglio sì, il coniglio no, la terra dei cazzi, cioè, cos'è questa storia? Cioè, non ho capito, Parenzo, hai capito te qualcosa? Nulla, hai capito qualcosa? Dai, hai capito qualcosa? No, cioè, meno di nulla. Dai, cioè, però, ma ditemi non una mangiare cosa. La carne era soltanto una questione estetica. Cioè, un ricercatore spirituale, inutile che si metterà a macellarsi un maiale. Vabbè, Fabrizio da Varese, il primo mi aveva convinto su alcune cose, tu no. Fabrizio Varese, vai. Ciao, mi dimmi, senti? Dimmi, sì. Ok, vuoi sapere una cosa per cui Osho è grande? Sì, dimmi. E che ti accomuna? Le religioni sono tutte spazzatura. Così ha detto? Così ha scritto, ha detto quello che ha deto. Le religioni sono... Beh, questo è ottimo, questo è ottimo. Questo è ottimo. Poi? Osho. Dammi un'altra massima, dai. Diciamo allora, che Gesù è passato alla storia. Su Osho ho qualche perplessità. Ecco, questo fatemelo dire. Poi uno può pensarla come vuole. Ma ammetto anche, è passato alla storia. Detto il tuo amico Cruciani, su sai. Vabbè, Osho, lui le condivide, infatti. Ho delle grandi perplessità che passerà alla storia, però. Poi ti consiglio tre libri. Il libro arancione. Sì. La Bibbia di Osho, sì, Bibbia, e il libro dei segreti. Per quanto riguarda, poi hanno detto molto anche quelli che mi hanno preceduto, comunque per quanto riguarda le meditazioni non sono solo dinamiche, ma anche statiche. No, però non mi parlate di meditazioni, perché mi fanno veramente venire il sangue al cervello. Le meditazioni no. Poi? Ma perché tu non sai cosa sono le meditazioni? Tu ma no, ma le meditazioni mi annoiano, c'ho un sacco di cose da fare. La meditazione, dai. Okay, la meditazione, ma che è? Ti annoia il respiro? Il respiro ti annoia? No, ma che c'entra la meditazione? La meditazione, uno, il pensiero conta, no? Essere là, meditare. Meditare, uno, non è che decidi di meditare. Mediti quando vuoi meditare. Le sessioni di meditazione, io una cosa che non sopporto, le sessioni di meditazione, i corsi di meditazione, ma se uno gli viene da meditare, no, medita, parla, pensa, infatti, una cosa incredibile, dai, ma su. Meditare non significa pensare, meditare significa non pensare, e questa è la differenza. Non pensare, vabbè, c'ho bisogno di Osho che mi dice ogni tanto non devo pensare, figurati quanto voglio non pensare io alcune volte. Comunque tu sei molto vicino, cioè tu va bene, ma questo qua lo tengo. Hai un piccolo seme che sta crescendo. E prova a leggere Osho, vedrai che questo seme diventerà una pianticella, diventerà un ottimo albero. Ciao Fabrizio, ciao. Ti ringrazio, ciao. Ciao, ciao. Io però, ragazzi, ho sempre nella testa questo cazzo di Oppido Mamertina, là, questo paese calabrese in provincia di non mi ricordo che cosa, forse di Vibo Valentia, ma Vibo Valentia non fa la Lamezia Terme, forse non mi ricordo che fa provincia lì, che c'è Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone. Reggio Calabria sicuro. Catanzaro, Crotone, e poi ce n'è un'altra, Vibo Valentia, che cos'è? Reggio Calabria comunque. Oppido Mamertina, Reggio Calabria. Allora, la questione è molto semplice. Sappiamo che lo scrivono i carabinieri, il vescovo ha coperto a lungo il prete pedofilo. Questa è la sostanza. Questa Don Antonello. Gli abitanti li abbiamo interrogati. Pronto? Sì, pronto? Ehi, com'è? Come ho fatto? Tutto bene. Tutto bene? Sì, tutto a posto. Vuoi una cosa? Sì, no, ma l'appuntamento, te lo ricordi? Che appuntamento? L'appuntamento col prete. Ah? L'appuntamento col prete, Don Antonello. Antonello? Antonello. Quale Antonello? Il prete pedofilo. Ma che cazzo sai? C'hai io degli appuntamenti? Sì, c'è l'appuntamento, te lo ricordi? Cazzo dici, da Luca? Ma lo conosci il prete o no? Amico mio. Ma Don Antonello, lo conosci? Ah, ma certa gente come parlano? No, certa gente come parla? Proviamo un altro. Pronto? Chi parla? Andiamo da Don Antonello? Antonello. Don Antonello, il prete. Non lo faccio qui. Ma come non sai chi è? Il prete pedofilo. Il prete l'hanno carcerato. L'hanno carcerato? Sì. Ma quando l'hanno carcerato? Da 20 giorni. Ma com'è possibile questa storia? Faccio io. Ma com'è? Una brava persona? Com'è? È una brava persona, sì. Cioè tu lo conosci? Sì, sì. Una persona brava, no? Faccio poi. Ma dice in carcere! Ma ha messo le mani addosso ai bambini, pare, ai minorenni. Non lo faccio così, dillo. Lo faccio, quante suoi. Fatti suoi, dici. Come fatti suoi? Sì, sì. Ti manca un po', Don Antonello? Certo, che manca. Ma è bravo allora, una brava persona? Sì, come persona sì, ma poi facci i fatti suoi. Adesso non voglio sapere. Non vuoi sapere niente? Ecco. Mi raccomando, stai bene. Ciao. Va bene. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. La Calabria, ragazzi. Bah. Rosario, Roma, vai. Pronto? Dimmi. Buonasera, Giuseppe. No, volevo intervenire sul fatto di Osho, no? Io ho conosciuto qualche ragazza così che leggeva Osho. Alla fine poi gli ho fatto cambiare idea, perché Osho lo leggeva, poi gli ho detto: guarda, a questo punto io ti apro le gambe e ti lecco la figa. No, no, aspetta, però Rosario, no, il passaggio voglio capire, il passaggio è questo, cioè conoscere questa ragazza, leggeva Osho, mi raccontava di questo Osho, tutte queste filosofie orientali, questo modo di vedere la vita, tutte queste chiacchiere che poi non servono a nulla, la verità sta nei fatti. E cioè? Gli dicevo scusa, perché dicevo scusa, anziché sfogliare il suo libro, no? La sfoglio io la figa. Vabbè, ma questo, vabbè, questo fa parte della vostra relazione, diciamo, del vostro modo di relazionarvi, vabbè, e allora? E quindi lei a un certo punto ha detto: caspita, allora preferirebbe lasciar perdere questo libro. Vabbè, ma questo qua, ma ho capito, ma cioè, non è che l'alternativa sia o quello o quell'altro. L'alternativa adesso sono io che sto. Ma perché? Perché alle donne, come scrive Fini, piace Osho? Perché? Ma non è che gli piace Osho, scelgono Osho perché poi alla fine non hanno. Il maschio. Chi gli mette il cazzo? Su, Giacomo da Roma, smettila, dai, Giacomo. Ho sciologo futuro. Ho sciologo? Sciologo attuale, siete presenti? No, aspetta, cerca di parlare bene, se no non capiamo. Tu sei lo sciologo futuro e quello accanto a te è il sciologo attuale. Siete la deriva dell'Occidente, andatevene a morire ammazzati. Vabbè, dai, Giacomo, dai. Questa cazzo di borsa fussi NIB, fussi offshore. Io voglio sfidare, Cruciani, non ce n'è uno dei tuoi ascoltatori che sa che cazzo significa io per prima fussi NIB, fussi offshore, e ci rompete i coglioni fino alle 20:30 e ci rovinate la zanzara. Basta, non se ne può più. Vabbè, l'hai detto. Ma senza offesa, è uno stronzo. Basta che dalle 5:30 lui fino alle 20:30, e questo perché? Per ideologia, caro. Vabbè, Giacomo, hai detto la tua intemerata, hai fatto la No, aspetta, ti voglio dire di Osho. Ma dimmi una donna con te che gli parli di frosci. Mi parli dei bambini adottati dai frosci. Ma che cazzo vuoi che gli rimane? Ma giusto legge se Osho. Perché Osho è Osho. Cioè già il nome te lo dice. Nomen omen è Osho. Cioè non è un cazzo. Voi siete detto, è il teorico del nomen genere. Quello omen, che diceva gli ascoltatori. Che dicevano? Ha il distaccamento, ha la consapevolezza. Cioè la donna vuole essere toccata, vuole che gli metti la mano. Vabbè, ma l'alternativa, ho capito, parla, Giacomo, ma tu dici che l'alternativa, ma Gruscià, tu non fai altro che parlare, che a scopà duri 2 secondi e fai le seghe, ti piace fare le seghe con quell'altro froscio de Parenzo con cui dormi la notte, e andiamo. Possiamo augurargli anche un buon Natale, un gentile anno Natale. Ma andatene a fanculo, che è Natale a Parenzo, tu sei ebreo e mamma mi rompi i coglioni. Ma l'hai fatto Natale. L'albero? Almeno voi non siete cascati a quell'albroscio dei 2000 anni fa, e andatene a fanculo. Ma questo è pazzo. Ciao, tu l'hai fatto? Vabbè, ciao. Piatro Enderpure. Dai, l'albero l'hai fatto, Davide? Io l'albero? No, ma perché devo fare l'albero per tuo figlio? L'hai fatto o no? No, io non faccio alberi. Ma poveraccio, tuo figlio magari vuole l'albero, vuole vedere lo l'albero vede di Natale. Lo vede in giro per strada, lo vede, che devo fargli l'albero io di Natale. Magari non te l'ha chiesto l'albero di Natale? No, non si fa l'albero a casa mia. Non si fa l'albero, posso non fare l'albero a casa? Ma l'albero è una cosa laica, non è una cosa religiosa. Fai tu l'albero, se vuoi, ma non c'è nulla di male. Ma io non faccio l'albero di Natale. Ma che ti frega di mettere 2 palline lì con l'albero? Vabbè, ragazzi, dai, ci sentiamo il 4 gennaio, ciao. La zanzara, patrimonio mondiale dell'umanità. E anche la figa. Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.